Buonasera a tutti. Ti posso presentare? Buonasera, vale comunque. Sì. Allora, la parola a Franco Ippolito, che è il presidente della Fondazione Basso, per un saluto e una spiegazione del senso di questa iniziativa. Ecco, il saluto innanzitutto della Fondazione a tutti voi presenti, a tutti gli amici che hanno accolto il nostro invito a questo incontro. E oltre al saluto, io voglio dedicare questo nostro lavoro che inizia oggi a due persone che hanno lasciato impronte proprio incancellabili in questa fondazione, che sono, come ovvio, Lelio Basso, che è il fondatore di questa istituzione, e Stefano Rodotà, che è stato presidente per lungo tempo. Hanno fatto la presidenza in epoche diverse, ma con un comune convincimento, e ogni attività è stata orientata a questo criterio, che la buona cultura è l'unica via verso la buona politica. Noi abbiamo fatto l'anno scorso varie celebrazioni in città italiane per il quarantennale dalla morte di Lelio Basso, e in corso di queste nostre tappe abbiamo più volte riletto l'ultimo intervento pubblico di Lelio Basso, che fu fatto in Senato il 7 dicembre, 9 giorni prima della sua morte, nel corso del dibattito parlamentare sulla revisione del referendum, del concordato. Sapete tutti che Basso si oppose sino alla fine all'articolo 7 della Costituzione. Altre logiche prevalsero, ma lui fu coerente e ancora in quel 7 dicembre 78 aveva una perfetta coerenza con la sua impostazione iniziale. Da quella lettura è nata in noi una sollecitazione nel corso del convegno internazionale che ha chiuso le celebrazioni bassiane il 15 gennaio scorso, a dedicare l'ultima sessione di quella giornata ad una discussione sulle nuove dimensioni della laicità. Ecco, è da questo che nasce questo progetto piuttosto ambizioso che vogliamo condividere con voi, che va sotto il nome di Fedi e Libertà. Ci siamo ricollegati idealmente ad una costante attitudine di Lelio, una attenzione religiosa, e faccio mie le parole di Giuseppe Alberigo, che introdusse gli scritti sul cristianesimo di Basso. Ecco, l'attenzione religiosa fu un elemento costitutivo della personalità della vita di Lelio Basso, che del fenomeno religioso coglieva anche l'espressione di un più generale fenomeno di liberazione. E poi ci siamo ricollegati alle tante battaglie da lui condotte come costituente, come parlamentare, per garantire il carattere aconfessionale dello Stato come condizione ineludibile del pieno esercizio delle libertà e in particolar modo delle libertà religiose. Ecco, anche in sintonia con quello stimolo bassiano, questo nostro progetto nasce da una forte preoccupazione, che è legata al fatto che nell'attuale società italiana ed europea, sempre più eterogenea per composizione religiosa, etnica e culturale, tendono ad emergere, sia nel seno delle confessioni religiose che in alcune organizzazioni politiche che appaiono oggi suffragate da consensi popolari significativi, emergono fenomeni di radicalizzazione, di intransigenza emergono posizioni e ideologie che costituiscono, ci pare, un pericolo reale per l'autonomia delle istituzioni pubbliche e per l'esercizio delle libertà personali. Insomma, un pericolo per la democrazia costituzionale, che non è soltanto consenso ed elezioni, ma è anche garanzia e tutela della libertà di tutti, garanzia dei diritti fondamentali della persona, principi, valori, regole che consentono la convivenza di diversi orientamenti politici, culturali e religiosi. E tra questi, come ha più volte ripetuto la Corte Costituzionale, vi è il principio di laicità dello Stato, che secondo la Corte costituisce un principio supremo fondativo della convivenza democratica. E ovviamente su questo terreno il nostro riferimento non può che andare a Stefano Rodotà, che non si stancava di coltivare e di proporre, nel quadro generale delle regole della democrazia, una laicità intesa e vissuta non come oppositiva, una tavola di valori da contrapporre ad altri valori, bensì come una laicità costitutiva, come componente essenziale del discorso pubblico, un potente fattore di libertà per tutti, un principio di riferimento e misura dell'agire dei cittadini e delle istituzioni. La laicità, insomma, come spazio costituzionale che consente a tutti la convivenza e il confronto. Ecco, in questa visione della democrazia come compresenza di valori diversi che si confrontano continuamente, Rodotà ci spingeva ad andare oltre le contrapposizioni schematiche tra religiosità e laicità, a non pensare a questi rapporti solo in termini di conflitto, ma piuttosto in una prospettiva dei modi di costruzione della sfera pubblica e della sfera privata. La sua elaborazione era nutrita di consapevolezza storica, ricordando che quando la pura logica identitaria ha preso il sopravvento, anche nei secoli passati, ma anche più di recente, l'Europa è stata teatro di conflitti sanguinosi. Di qui la sua accorata avvertenza, che a noi pare oggi più attuale che mai. Scriveva: quali che siano le politiche che si vogliono adottare di fronte ad una composizione sociale sempre più marcata dalla presenza di etnie, culture e religioni diverse, è certo che non sono efficaci e sono sommamente rischiose quelle che portano a marcare distanza, a enfatizzare incompatibilità, addirittura a costruire nemici. Ecco, di fronte ai problemi connessi alla crescente eterogeneità della composizione etnica, culturale e religiosa delle nostre società e di fronte ai complessi interrogativi posti alla coscienza morale dalla tecnoscienza, la laicità intesa alla Rodotà costituisce anche l'unica dimensione metodologica per affrontare questioni emergenti dalle nuove possibilità offerte dalla scienza sui temi cruciali della vita e della morte. Con la consapevolezza che le innovazioni scientifiche e tecniche stanno rivoluzionando società e vita, Rodotà avvertiva la necessità di adeguati principi di riferimento e a tal fine auspicava una discussione nella quale si possano confrontare culture ed etiche diverse, che possono legittimamente concorrere insieme nel confronto ad elaborare principi e criteri di riferimento socialmente significativi, a condizione però di porsi nel discorso pubblico in atteggiamento di dialogo paritario, senza pretese di assolutezza e di esclusività, anche perché l'ordinamento costituzionale garantisce la libertà di coscienza di ogni persona come principio inviolabile, garantisce la parificazione davanti alla legge tra il credente e il non credente, garantisce l'inammissibilità di supremazie gerarchiche valoriali fuori dal quadro costituzionale. Ecco, l'occhio del giurista rivolto al futuro coglieva da un lato l'impossibilità di continuare a usare il diritto secondo vecchi schemi del passato, a rischio della sua inefficacia, della sua riduzione a strumento autoritario, a rischio di perdita di legittimazione. Ma dall'altro lato vedeva l'ampliarsi delle possibilità di scelta che appartengono alla coscienza individuale, che riguardano la propria vita e perciò non possono essere sacrificate, come scriveva, da mosse autoritarie, da imposizioni, senza violare l'eguale libertà di coscienza. Aggiungeva la Rodotà che il pluralismo non è soltanto un connotato della democrazia, ma è diventato un dato di realtà, fatto di politeismo dei valori, di diversità culturali, etniche e nazionali. Ed affrontava lo stesso tema della identità e delle appartenenze, valorizzando il diritto alla diversità in un quadro di riferimenti universali e comuni, per evitare appunto separazioni e chiusure identitarie. Ecco, noi vogliamo essere coerenti con il pensiero e l'azione di questi uomini, Lelio Basso e Stefano Rodotà, che sono sempre stati lontani da diatribe tra clericali e anticlericali, nel convincimento che il laico, anche quando esprime con forza, con convinzione il suo punto di vista, deve lavorare perché vi siano o si creino le condizioni per un confronto aperto e continuo tra i diversi punti di vista. Deve impedire la formazione di ghetti ideologici, etnici e religiosi, deve lavorare per distinguere quel che deve essere regolato dalla norma giuridica da quel che deve essere affidato alla norma morale e alla coscienza individuale. Di fronte alle incognite e alle inquietudini del presente, questa era una costante avvertenza in momenti diversi e di Basso e di Rodotà, di fronte a queste inquietudini da cui è percorsa la nostra società e di fronte alla crisi della politica che non appare oggi capace di individuare criteri di riferimento e di orientamento, donne e uomini di cultura devono sentirsi interpellati in un lavoro di comune ricerca, in un dialogo tra persone di buona volontà, fuori da dogmatismi, fuori da ogni pretesa di imporre agli altri i propri valori e i propri convincimenti. Ecco, il fatto che tante persone diverse abbiano accolto il nostro invito al confronto ci sembra di buon auspicio sulla fecondità del percorso che oggi avviamo. Vi ringrazio per la vostra presenza e davvero speriamo tutti quanti di fare dei passi avanti insieme. Grazie. Grazie Franco. A me spetta il compito oggi pomeriggio di regolamentare la nostra discussione. Sono Fausto Tortora e mi preme chiarire che siamo oggi alla prima di quattro tappe che abbiamo ipotizzato. Innanzitutto, a partire dal convegno del quarantennale della morte di Basso, ricordato prima da Franco Ippolito, abbiamo costituito un piccolo gruppo di lavoro in fondazione con la presenza di a cui partecipa Gianni Giannoli, Mario Campli e Claudio Paravati, nonché il sottoscritto, con l'apporto fondamentale di Giacomo Marramao, che è qui alla mia sinistra e che è parte del comitato scientifico della fondazione, anche per segnare che questo non è un interesse in qualche misura provvisorio transeunte della fondazione, ma vuole essere un elemento di interesse costante, anche se, ve lo dico subito, non abbiamo nessuna fretta nel giuridicizzare la discussione. nel farne cioè oggetto di una proposta immediatamente politica, di tipo legislativo, per esempio, sull'abolizione o revisioni concordatarie, sulle leggi sulla libertà religiosa o cose analoghe. Ma, come ci ha insegnato il nostro fondatore, partiamo da lontano, partiamo dalle categorie. Partiamo oggi con una discussione sulle appartenenze, per poi affrontare una discussione nella scadenza successiva sulla verità, poi affronteremo il tema dei diritti e poi quello dei poteri, che forse più ci avvicinerà a quella conclusione. Questo per dire che non è che noi, figuriamoci se questa fondazione, che è sempre stata attenta alla dimensione e alle dimensioni istituzionali, si misurerà alla fine anche con questa dimensione, verificando anche le proposte che ci saranno presenti sul mercato politico, forse facendosi parte di quella discussione. Però per dire che vogliamo però partire rimettendo in discussione proprio delle categorie fondanti la nostra agire politico. Ho detto pure troppo, vorrei aprire immediatamente la discussione. Chiedo se è arrivato il professor Bongiovanni. Sì, seguiamo esattamente l'ordine. Allora, la parola al professor Bongiovanni della Pontificia Università Urbaniana. Grazie. Un'ora e mezza, ok. Di solito si dice sarò breve, ma poi non si è mai brevi. Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui e riflettere su questo tema che mi appassiona anche per il mio lavoro. Ma io mi occupo di dialogo interreligioso soprattutto, e quindi della teologia del dialogo interreligioso, in maniera particolare in relazione a Islam e induismo, avendo vissuto per alcuni anni nel contesto asiatico ed occupandomi da quasi 30 anni di questo rapporto. E ho inteso un po' il tema fedi e appartenenze guardandolo, diciamo, un po' sotteso all'intervento che farò oggi, perché l'ho inteso un po' nella prospettiva ovviamente interreligiosa dal punto di vista cristiano, e quindi cercherò di guardare un po' l'aspetto del, forse di un nuovo modo di essere religiosi oggi, del nuovo modo di vivere anche l'appartenenza religiosa. E quindi un tratto, vedere un attimo se riusciamo ad esaminare un tratto possibile dell'essere religiosi oggi e nei tempi futuri, come quello, come l'incontro interreligioso, a partire dalla riflessione e dalla prospettiva della natura della religiosità nel nostro tempo. E la natura della religiosità è una questione che già Romano Guardini, ad esempio, si è posto nel suo libro La fine dell'epoca moderna. Guardini guardava questo aspetto soprattutto in relazione al paganesimo e alla laicizzazione della società, quindi mi sembra che siamo in tema questo discorso, e alle forme storiche del cristianesimo. Gli inizi del terzo millennio sono stati segnati da un lento superamento di un impasse ideologico, come eredità illuminista che ha generato un pregiudizio di fondo verso la religione, pregiudizio che permane tuttora, basato su una critica alla religione, in particolare al cristianesimo, oggi all'Islam, assumendo, si è spostato un po' l'asse per i problemi ovviamente anche geopolitici, assumendo la ragione e non la tradizione come la fonte ultima di tutta l'autorità. Guardini già vedeva chiaramente la profonda crisi della modernità. Essa, pur appellandosi alla centralità della ragione e fondando la critica alla religione proprio sugli elementi di irrazionalità che questa contiene, in realtà ha prodotto una crisi della ragione stessa. Guardini asseriva che la rivelazione cristiana riconosce l'errore del concetto di autonomia, sto citando lui, errore del concetto di autonomia, e sa che una cultura che vuole costruirsi eliminando Dio non può riuscire per il semplice fatto che Dio esiste. E infatti quella pretesa forse di eliminare o di mettere da parte Dio è un po' fallita, perché ci siamo resi conto anche antropologicamente che Dio esiste, Dio non è affatto morto, è vivo ed è, alimenta anche tutto il dibattito all'interno delle nostre società. Anche la stessa scienza ha rivisto il suo approccio allo studio della natura appoggiandosi all'intuizione e accettando il limite della sua, nella sua incapacità di dare risposte alle questioni di senso più profonde. Due autori più recenti, quasi contrapposti come pensiero, evidenziano un problema della ragione in relazione alle tradizioni religiose. Il primo è Joseph Ratzinger, che, per il quale il futuro della religione dipenderà proprio da come la religione, quindi anche il cristianesimo e la Chiesa, imposterà il rapporto con questo movimento della ragione. Raimundo Panikkar, invece, evidenzia che proprio l'idea di poter chiarire ogni cosa attraverso la ragione e di comprendere la realtà con il linguaggio matematico, trascurando proprio il mitos, fosse il pilastro più debole dell'illuminismo, poiché invece mitos e logos abitano insieme, diceva Panikkar. A maggior ragione, proprio nel dialogo delle religioni non si può lasciare il mitos. Quali sono le sfide del nostro tempo? Ma prima di tutto, con la caduta, con la caduta del muro di Berlino, inizia ad emergere nella sua complessità la dimensione pluralistica della cultura e della religione, accelerata dal processo di globalizzazione e caratterizzata dall'elemento di prossimità. Prima sentivo parlare di questo. L'11 settembre è stato un fattore, scatenante, il fattore religioso ritorna ad assumere un ruolo centrale nella sfera pubblica europea. Altra situazione è quella di altri contesti del globo che spesso gli europei trascuravano, come quello indiano, per esempio, dove c'è un altro concetto di laicità, soprattutto in relazione alle sfide prima dell'Islam e poi dal diffuso pluralismo religioso e culturale. Un irrinunciabile ruolo della religione riconosciuto per la formazione delle coscienze. La seconda sfida è la volontà di potenza. E questo ne parla anche Umberto Galimberti in un suo libro, e dice, e mi trovo abbastanza d'accordo nel vedere la volontà di potenza, l'anima dell'Occidente, è un'arma un po' a doppio taglio per certi versi, la cui intenzione è quella di raggiungere il dominio incondizionato della totalità dell'ente, dice. Ma certo non è solo l'Occidente a mostrare questa volontà di potenza, perché essa appartiene a tutto il genere umano e anche alle tradizioni religiose, come vedrò più avanti. Guardini dice che il potere è qualcosa di polivalente, può generare il bene e il male, costruire o distruggere. Il problema è in relazione alla crescita di potere su ciò che esiste, non c'è stata una crescita della responsabilità e consapevolezza e della chiarezza della coscienza. Questo è quello che vede Guardini. Il potere può far bene, può far male, ma il vero problema è la responsabilità nella gestione del potere e di questa volontà di potenza. Sembra che gli esseri umani non siano stati educati all'uso del potere e al suo controllo senza fare un uso della violenza. E il futuro dell'umanità dipenderà proprio da questo controllo. Lo stiamo vedendo come è proprio tutto il controllo delle nazioni si genera sempre su rapporti di forza. Alla fine si finisce con i rapporti di forza. E quindi emerge ancora questo scontro di potenze. Stiamo assistendo al problema della Cina, stiamo riflettendo sulla questione della Cina in questo momento e sono piuttosto sconvolto come queste tematiche non si affrontano, le si affronta solo dal punto di vista economico, finanziario, eccetera, eccetera. Terzo, la globalizzazione è incapace di proporre modelli morali ed etici utili alla vita sociale, con la denunciata inadeguatezza di sistemi istituzionali costruiti ormai solo su logiche economiche, materialismo e consumismo, che destabilizzano tutti i sistemi culturali, persino i buoni intenti della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, e non ha migliorato le condizioni generali della stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Dico questo perché sapete che una delle violazioni che cresce come trend è quella violazione della libertà religiosa nel mondo. Quindi è una delle violazioni che sta avvenendo anche nei paesi cosiddetti democratici, con forme diverse, con forme più subdole. Quarta sfida, L'ipocrisia o forse una forma di schizofrenia culturale che l'Occidente vive oggi. Da una parte si rifà e lotta per l'identità cristiana e biblica, dall'altra sostiene logiche e modelli di sviluppo che sono in contrasto con il dato evangelico, promuovendo quelle che nel linguaggio cattolico chiamiamo strutture di peccato. Quindi è necessario fare un'autocritica da questo punto di vista. In ultimo, la distanza tra il credo religioso e la pratica nella maggior parte dei contesti. In questo ritorno del sacro, il cristianesimo, tra virgolette sacro, perché anche qui sono categorie che andrebbero sempre approfondite, in questo ritorno del sacro il cristianesimo e le altre tradizioni religiose devono confrontarsi dunque con una crisi sistemica, una crisi etica globale, ma anche richieste di senso, bisogno di spiritualità, di autenticità, di verità. Tali sfide ci conducono a comprendere le esperienze religiose e spirituali, a ricomprenderle, a ripensare le verità di fede in relazione ai segni dei tempi. Non so se possiamo porci la domanda se ci troviamo di fronte ad un cambio di paradigma. Il paradigma è sempre una parola un po' grossa, non lo so. Però certamente ci troviamo in un cambio, un cambiamento molto importante nel quale proprio i sistemi tradizionali, tra virgolette tradizionali, come anche le democrazie, i sistemi, le istituzioni internazionali sono in crisi e non riescono a, diciamo, a rispondere a tutte quante queste sfide. Quindi le società europee, in particolar modo secolarizzate, sono costrette a ripensare la loro identità alla luce dei valori religiosi e quindi con le conseguenti implicazioni etiche che evidenziano in un certo senso una crisi del laicismo e forse anche della laicità stessa. La fede e la libertà religiosa, e qui entra in gioco il discorso delle appartenenze, non sono disgiunte dalle implicazioni comunitarie. Si tratta di capire, ecco, l'importanza della presenza religiosa in un mondo liberale, nelle società democratiche, soprattutto in relazione al pluralismo. La novità più interessante è che la dimensione religiosa si mostra oggi in tutta la sua molteplicità, anzi potremmo forse dire che ci rendiamo conto che la molteplicità del mondo sia proprio caratterizzata dalla pluralità delle esperienze religiose, che portano con esse pluralità di visioni del mondo, anche cosmologiche direi. Non esiste dunque un unico modo di guardare la realtà. Possiamo osservare tre prospettive, tre modi di vedere e tre modi di vivere la propria appartenenza religiosa e di rispondere al cambiamento rispetto al pluralismo religioso, secondo me. In primis una costante crescita di dogmatismi e assolutismi, secondo un relativismo culturale, valoriale e religioso, e infine la prospettiva del dialogo interreligioso ed interculturale. Il primo punto riguarda questo dogmatismo, questi assolutismi crescenti che portano ai fondamentalismi. Per molti la pluralità di visione conduce ad uno scontro stigmatizzato come scontro di civiltà che sottintende uno scontro di natura religiosa, soprattutto in relazione all'Islam in questo momento, per quanto riguarda l'Occidente. Ma se guardiamo altre parti del mondo ci sono altre problematiche. Guardiamo l'India e altri contesti. Guardiamo il discorso della Palestina, Israele, Myanmar, eccetera, eccetera. Huntington presagiva che i conflitti più profondi non saranno più di tipo politico-sociali, ma di tipo identitario, quindi vedendo la diversità culturale come potenziale disgregante oltre che aggregante. Tale etichetta, espressione che purtroppo ha avuto fortuna nel linguaggio giornalistico e politico con ricadute psicologiche sociali, perché a furia di dire il mantra alla fine la gente ci crede pure, questo dico io, i media hanno anche questa influenza di essere dei megafoni che alla fine stordiscono, faccio una critica, qui abbiamo il direttore di confronti, ma lui sa benissimo quello che penso su questo e ci confrontiamo, ecco, su questo tema. Pur partendo da alcune considerazioni plausibili, l'idea di scontro porta con sé sia una visione violenta di civiltà, che esaspera con assolutismi e dogmatismi differenze incolmabili, ed un'idea di identità chiusa e statica, che a mio modesto parere evidenzia anche un nonsense antropologico. E una tale idea di scontro e di rivendicazione identitaria è ragion d'essere sia dei fondamentalismi religiosi che nazionalismi e comunitarismi. Non fanno eccezione alcune posizioni laiciste, i cui toni assumono spesso caratteri simili al fondamentalismo. Io lo chiamo un fondamentalismo laico nel mio piccolo libretto sui fondamentalismi. Anche quello è un'espressione, esistono delle modalità molto simili. Il fondamentalismo infatti rifiuta ogni riflessione logica e dialogica, ogni confronto con altre realtà esterne, assumendo un tono di autoreferenzialità assoluto, da cui scaturisce quindi l'arroganza del possesso esclusivo della verità, che non può essere messa in questione neanche dalla teologia stessa della propria tradizione religiosa. Quindi il fondamentalismo è un problema interno alla tradizione religiosa e ovviamente sociale ed esterno alla tradizione religiosa di appartenenza, e quindi è la costituzione ovviamente di gruppi forti. Possiamo dire dunque da questo che le religioni esprimono anche una religiosità violenta a causa del loro messaggio, o è qualcos'altro che conduce alla violenza? E qui mi ricollego alla questione della volontà di potenza. Secondo me il problema è sempre lì, che interessa sia la società civile che le religioni. C'è un fattore comune. Per me, diciamo, studiando un po' le religioni, interessandomi anche, diciamo, dell'impatto sulla società, vedo questa volontà di potenza che domina il mondo attuale, inquina le relazioni e che non può essere legata esclusivamente alla dimensione religiosa. Anche le religioni, i loro membri possono essere dominati da questa volontà di potenza quando pensano di poter assolutizzare Dio, di usarlo ai fini di rendere più potenti le azioni umane, rendendo oggetti gli altri, cioè un'oggettificazione dell'altro è proprio sottesa alla volontà di potenza. Gli stessi fondamentalismi religiosi non sono solo un frutto interno alle religioni, ecco, ma rappresentano una risposta forte e intransigente ad un altro modello intransigente e forte come quello sviluppato della modernità. Io, diciamo, dal mio studio sui fondamentalismi ho capito questo, che i fondamentalismi religiosi sono una reazione alla modernità e sono una reazione forte e violenta ad una modernità forte e violenta, cioè che ha una violenza nei confronti dell'ambiente, che ha una violenza nei confronti delle relazioni tra stati e che è alimentata da, insieme a tutti gli altri bei valori. Qui, diciamo, sto portando ovviamente un'analisi un po' critica, ovviamente, no? Della questione, altrimenti ci diciamo sempre che l'Occidente è bello, è bravo, è buono, è giusto e c'ha tutti i valori, i diritti, che ha capito tutto dell'umanità. Insomma, guardiamo che dall'altra parte del mondo c'è un altro modo di guardare, di vedere, e poi qui è tenere insieme le parti del mondo, cioè tenere insieme queste visioni. Allora io cerco di fare un'analisi critica su questo problema della potenza. E guardiamo che nel linguaggio anche politico, ma anche religioso, se facciamo un'analisi attenta lo troviamo. La via relativista. Vedo che il tempo scorre, che quindi non riuscirò, già prevedo che non riuscirò a finire tutto quello che volevo dire. Comunque va bene, faremo così. Allora, la via relativista. La via relativista in un certo senso è l'altra parte, diciamo, è l'altra parte della forbice, diciamo, no? L'altro modo, l'altra realtà, che riconosce certamente una certa dignità alle varie espressioni religiose e culturali. Le libera dai modelli etnocentrici, però porta ad un indifferentismo religioso e culturale, quello che io dico così nel gergo ai miei studenti, non prende sul serio la diversità, cioè appiana in un certo senso le differenze, incapace a volte di distinguere, di comparare, di ricercare. Quindi quando mi dicono che sono relativista perché io faccio il dialogo interreligioso, dico scusatemi, non ci sto, perché per me il dialogo interreligioso è proprio lavorare in mezzo alle differenze. Anche le accuse che vengono a volte dal mondo cattolico stesso, no? C'è un mondo cattolico che guarda il dialogo come un appianamento, con sospetto, e dico: guardate, stiamo parlando di tutt'altra roba, il relativismo culturale, valoriale è un'altra cosa, è un'altra questione, è un altro fenomeno, e qui i vescovi asiatici lo hanno ribadito più volte, a volte anche con qualche difficoltà di linguaggio. Quindi il relativismo si appella ad una tolleranza che però nasconde una certa, come dire, non accettazione dell'altro, mantiene la distanza, per dirlo in termini buberiani potremmo dire un egli, lo diceva anche Ducci, un egli, un lontano, no? Non un io e un tu in relazione, ma un egli, un soggetto lontano. Lo si riconosce come soggetto, ma è un egli, è lontano da noi, è distante. E il multiculturalismo in un certo senso è proprio affetto da questa visione. A livello sociale non favorisce alcun processo di scambio e di integrazione. È già un passetto in avanti avere il multiculturalismo all'interno delle società, certamente, perché sono riconoscimenti di differenze, di diritti di esistenza. Però è altra cosa, invece, quella che chiamiamo la terza via, uso questa espressione un po' così, la terza via, alternativa allo scontro di civiltà e al semplice multiculturalismo, cioè quella dialogica. A me non piace proprio la parola buonismo che si usa in giro, ma lo dico qui per chiarire, uso la parola, il termine giornalistico o politico, non è affatto buonismo, no? Ma è costruito dal punto di vista cristiano. Ho pochi minuti per dire la prospettiva cristiano-cattolica su questo tema. Anche qui il dialogo interreligioso, faccio una piccola premessa, è certamente un'espressione usata oggi di moda, usata nel linguaggio pubblico, visti come strumenti di coesione sociale, indispensabili per il futuro della società, strategie per risolvere conflitti, confondendolo a volte come pratica di tolleranza o, ancora peggio, sono molto preoccupato, sfortunatamente, come forma di controllo dell'altro. Sotto sotto voglio dialogo per sapere l'altro cosa ne pensa, per gestirlo, tra virgolette, lo gestiamo meglio. Questa strategia laica cade ancora una volta in una forma ambigua di una religiosità, dico io senza essere profondamente religiosa, perché dialogo interreligioso contiene la parola dialogo, che è una parola impegnativa, molto impegnativa. Interreligiosa, dovremmo spiegarlo meglio cosa intendiamo, visto che siamo nel tema e la premessa, l'abstract, già ci dava l'idea della problematicità di questi termini, però ovviamente non mi dilungo. Un altro pericolo è che su un piano molto sottile la crescita di un certo umanitarismo di organismi internazionali, vedi Nazioni Unite Unione Europea, io ho lavorato anche nelle Nazioni Unite, quindi un po' conosco, c'è una sorta di religione, la crescita è una sorta di religione civile che è priva di riferimenti al trascendente, anche ovviamente in riferimento al fondamentalismo islamico, che indebolisce questa mancanza di riferimenti al trascendente, intebolisce ogni tradizione religiosa, ne nega i riferimenti teologici e punta ad un'etica laica in nome di negoziazioni politiche ed ideologiche. Questo non è dialogo, questo è altra roba. Pongo dei problemi, poi magari non sarete d'accordo, ma io sento un po' questi aspetti. A livello... Quanti minuti ho? Già scaduto, finito. No, vado alla conclusione. La conclusione è questa, che a livello teologico, per la teologia cristiana, dialogo interreligioso è un dialogo religioso. Quindi dobbiamo chiarire subito questo aspetto. Religioso nel senso più profondo del termine, mi piace più usare il termine inglese, interfaith dialogue, cioè un dialogo tra le fedi, cioè un dialogo esistenziale, non è un dialogo tra sistemi, non è solo, ovvero le istituzioni fanno la loro parte, dialogano, si confrontano anche su temi dottrinali, ma principalmente il dialogo interreligioso va riportato sul piano della prassi, cioè un'esperienza di incontro, e un incontro tra persone religiose che vivono profondamente la loro fede. E quindi quel discorso di prossimità di cui parlavo prima è fondato su un principio teologico, per noi cristiani, su un principio di trascendenza, che Dio stesso si fa dialogo, Dio stesso dialoga con l'umanità, si fa dialogo a tal punto che entra nell'umanità, entra a far parte di questa umanità. Quindi tutto questo discorso ha a che fare con l'identità stessa di Dio, con la realtà di Dio, che è un'identità, che è una realtà aperta, che è una realtà aperta, che è una realtà che si umilia, che si abbassa, che entra in relazione anche con i più piccoli, con i più bisognosi. Quindi il termine dialogo interreligioso, l'espressione dialogo interreligioso per noi cristiani è un impegno di vita, è una vocazione, è una scelta di andare incontro all'altro, che nasce proprio da questo fondamento teologico profondo. L'ho ridotto moltissimo il discorso, no? Ma mi interessava soprattutto fermarmi su questi, sui primi punti critici. Quindi costruire una società o riferirsi al dialogo interreligioso senza far riferimento a questo impegno di vita, questo riferimento teologico, significa snaturare profondamente la prospettiva, il dialogo interreligioso dalla prospettiva cristiana, e utilizzarlo come uno strumento, ripeto, uno strumento di controllo, uno strumento di gestione dell'altro. Cosa dire? Io dico, concludo con un'altra espressione di Guardini, visto che l'ho citato dall'inizio, inizio e chiudo con un'espressione di Guardini rispetto alla crisi. Ah, mi sono dimenticato di una cosa importante, che la Chiesa cambia il suo modo di essere Chiesa nel mondo facendo riferimento a questa origine trascendente del dialogo. Faccio solo riferimento all'espressione di Papa Paolo VI in Ecclesiam Suam, dal quale trae poi tutta ispirazione il dialogo interreligioso e il cambiamento di visione della Chiesa. Quando Paolo VI dice in Ecclesiam Suam, trovo subito, ecco qui: la Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio. E in questo farsi che c'è tutto, tutta la visione, il farsi. Quindi nell'essere in dialogo ci facciamo qualcuno, ci incontriamo qualcuno. Quindi questa è un po' la prospettiva. Chiudo con Guardini sulla questione della crisi. Crisi, dice Guardini in questo suo saggio sul potere, è sempre una decisione tra possibilità negative e possibilità positive. E la questione essenziale è sapere dove cada questa decisione. La giusta posizione non può solo essere quella di accettare la situazione che ci viene data e di dominarla dall'interno, appoggiandosi alle più pure forze dello spirito e della grazia. Se falliamo, non significa che la nostra epoca come tale sia decadenza e rovina, ma diventa evidente che in ogni momento l'uomo è soggetto a decadenza e alla rovina e ha bisogno di redenzione. Grazie. Ringrazio molto il professor Bongiovanni e invito tutti anche a rispettare il tempo degli interventi, in maniera tale che così la nostra attenzione rimane vigile e non cade. 20 minuti. La parola a Marco Fornerone, pastore valdese. Buonasera a tutte e tutti, grazie per questo invito, del quale spero di essere all'altezza. Partirei dal tentativo che ho fatto di identificare il problema, non per probabilmente per darvi informazioni che non abbiate, ma per chiarire da dove sono partito. Ragionando su che cos'è il fondamentalismo, che in questo è in questo aspetto parallelo al totalitarismo, l'elemento che ho sottolineato è quello che lo vede come un appiattimento binario dell'identità, cioè ci sono io e il non io, noi e il non noi, che è tutto il resto, e che questa appartenenza, che può essere religiosa o anche, come si diceva, politica, esclude tutte le altre, che pure ci sono ovviamente. Quindi la religione, la mia appartenenza religiosa esclude la mia cittadinanza, la mia appartenenza politica esclude l'appartenenza, ad esempio, al genere umano degli altri di solito. E partendo da questo, la riflessione che ho fatto parte dalla speranza che le fedi mantengano invece un elemento di resistenza a questo appiattimento dell'identità. Le fedi intese nel senso ampio, come si diceva nella nota introduttiva che ci è stata inviata. In questo contesto le religioni sono attraenti perché costituiscono la possibilità di veicolare una fede, cioè un insieme di idee, di valori che orientano la vita. Sono attraenti le religioni perché non lasciano soli nell'elaborare questa visione e non lasciano soli nel viverla, il vissuto di cui si parlava. Sono narrazioni, spiegazioni della vita nella loro totalità. Il fondamentalismo e le versioni fondamentaliste sono attraenti perché riescono anche nella complessità del mondo attuale a proporre una spiegazione così totalizzante, che supera le due difficoltà, e forse difficoltà è addirittura un eufemismo, che invece nel pensiero si incontrano in questo mondo moderno, postmoderno o transmoderno, comunque semplicemente il mondo di oggi. Da un lato la difficoltà della scienza, che è quella di spiegare il perché della sofferenza, il senso dell'esistenza, la difficoltà di parlare della felicità dell'essere umano. Mentre spiegano tutto il resto, questo rimane inspiegato. E dall'altra parte invece le varianti non fondamentaliste delle religioni non hanno più la capacità, o faticano a trovare la capacità di spiegare la realtà nel suo complesso, oppure di risolverla in una versione eccessivamente semplificata, che quindi in realtà non risponde veramente alle domande. E un esempio che è stato citato sempre nel documento che ci è stato inviato come luogo in cui si sono visti nascere delle versioni religiose fondamentaliste, che è l'America Latina, dove si è visto la nascita di fondamentalismi cristiani di matrice evangelica di solito. Ecco, quell'esempio mi sembra faccia emergere un ulteriore elemento, perché i fondamentalismi cristiani in Latino America hanno occupato, io credo, il vuoto lasciato dalla teologia della liberazione, dove si è combinato da una parte lo sforzo di eliminare questa esperienza da parte della gerarchia ecclesiastica, e dall'altra parte c'è stato lo sforzo di riempire quel vuoto dalle missioni di solito nordamericane, finanziate dagli stessi ambienti che sono sostenitori del capitalismo neoliberista. E l'elemento che mi sembra emergere è che l'unica teoria che tiene insieme tutto, l'unica teoria che spiega il mondo è il capitalismo oggi. Lo stesso che produce la sofferenza degli esclusi e che porta alla domanda sulla sofferenza, lo stesso che ha una forza disumanizzante che poi si estende a tutti, non solo a chi ne sono, a chi ne è escluso, ma anche a chi ne è semplicemente consumatore. Capitalismo che è in fondo, come mi pare dicesse chi mi ha preceduto, in fondo fondamentalista esso stesso, perché non ammette una visione alternativa o complementare della realtà. E infatti ingloba il fondamentalismo religioso, ad esempio, ma anche le versioni politiche, in qualche modo come una valvola di sfogo delle proprie contraddizioni, ma non ne viene mai messo in questione. Mentre impostazioni più critiche, più aperte, in assenza di una teoria alternativa che spieghi come va il mondo, il senso di come va il mondo, queste altre proposte rimangono di fatto mute e vengono anzi spesso assimilate, e forse non completamente a torto, allo stesso sistema che causa la sofferenza. E dunque vi è necessità di una teoria alternativa che sia umanizzante e che forse le fedi sono ancora in grado di proporre. Le fedi e anche proprio le religioni potrebbero forse dare un contributo, proprio per il loro elemento che è stato spesso rifiutato come arcaico, o detto meglio l'elemento mitico che andrebbe recuperato, che parla di una solidarietà con il tutto, con il cosmo, elemento che è particolarmente importante in una prospettiva ecologica oggi, che credo non solo permetta una visione unificante, perché parte da un punto comune per tutti, ma anche perché non è più eludibile per ragioni di sopravvivenza. Quindi da questa speranza che le fedi possano giocare questo ruolo, credo sia necessario cercare di derivare un metodo del dialogo e della convivenza che abbia nella capacità di innovarsi la sua coerenza con la propria tradizione, così da non proporre una struttura rigida, come si diceva, un patto rigido da applicare forzosamente a tutte le situazioni, ma avere invece un metodo dinamico costruito a partire da delle affermazioni di merito che ne costituiscono la fonte e sulle quali bisogna poi misurare quel modello. Nel documento si parlava della coscienza democratica e della maturità civile, che sono appunto dei valori fondanti poi un metodo di dialogo. Questo metodo riconoscerà la complessità delle identità, e quindi che la mia identità non è composta di un'unica appartenenza, ma sono molte le appartenenze che mi attraversano, e permetterà di individuare trasversalmente a queste un'appartenenza comune, e quindi di trovare un punto di incontro, di appartenenza comune a tutte le varie religioni, tutte le varie fedi. La difficoltà di questo tentativo sta nel trovare il modo di affermare questi valori fondativi comuni, e cioè se ogni fede ha e ha la pretesa di avere il proprio insieme di valori fondativi, come trovarne di ulteriori? Dato che tutte le fedi rivendicano un'autorità fondativa, come trovare un'altra che possa stare al di sopra o alla base? Non è possibile farlo a partire dal presupposto illuminista occidentale, che è quello che esattamente è in scacco al momento, e occorre dunque tentare un'altra strada, che è, credo, quella di partire con una scommessa da verificare, dunque anche avendo la disponibilità poi di verificare, la scommessa è che vi sia in ogni fede il seme di un tale fondamento comune. Scommettere sull'esistenza di una coincidenza delle verità, che in effetti è una scommessa illuminista, verità che se non coincidessero non sarebbero in effetti tali, però verità che si possono raggiungere solo con questo percorso dall'interno e non dall'esterno, perché l'altro percorso è quello che ad oggi è precluso e sembra non funzionare. La ricerca va fatta all'interno delle fedi, dei sistemi di idee, dei sistemi di valori, cercando lì quell'elemento che fonda il mio dialogo con l'altro. E proprio come diceva chi mi ha preceduto, il dialogo interreligioso dal punto di vista cristiano è una questione religiosa. E questa ricerca a partire, fatta questa ricerca, trovato questo punto di partenza, si può allora fare quel lavoro di traduzione che veniva suggerito, che è effettivamente da affrontare con un atteggiamento credente, perché si appoggia su una verità che non possiamo derivare da un'altra parte. E anche se questo non è di solito la mia impostazione, mi sembra in questo caso evidente che è effettivamente una convinzione, quella da cui parte questa scommessa, che non possiamo provare diversamente se non provando a percorrerla. E quindi poi possiamo provare a tradurre ciò che abbiamo trovato al fondo di questa ricerca, e se si tratta di una traduzione significa che si tratta di una scelta, implica necessariamente una scelta consapevole, critica, ma comunque una scelta dunque anche parziale. Cioè non è automatico che sia quella la prospettiva che prevale. All'interno del cristianesimo questa scelta è quella di interpretare il cristianesimo, che è l'unico esempio di cui mi sento autorizzato a parlare, interpretarlo come una traduzione universalista e plurale della verità che il cristianesimo a sua volta ha ritenuto di individuare nell'ebraismo, a torto o a ragione. L'affermazione dell'altro senza alcuna ulteriore qualificazione, l'affermazione dell'altro come preoccupazione ultima, in quel Dio che si fa uomo e che si fa uomo in un uomo privato di qualsiasi qualità, cioè il crocifisso, viene accettato l'uomo, l'altro in sé, senza nessuna necessaria ulteriore specificazione. Allora, se si sceglie di interpretare il cristianesimo come una traduzione di questa idea, si apre la possibilità di riconoscere per le mie ragioni religiose l'altro come la preoccupazione fondamentale mia. E se si tratta di una scelta, di un'opzione, come farla prevalere? Si diceva la teologia, neanche la buona teologia basta come argomento contro i fondamentalismi. Il fatto che sia vera o giusta non è un elemento che si afferma da sé nella società plurale. E allora come farla prevalere? Io credo che l'unico modo sia indubbiamente lo sforzo di traduzione, uno sforzo pedagogico di costruire a partire da questa scelta, che deve partire dal contrasto del fondamentalismo nei luoghi dove fa presa, cioè proprio da quelle domande a cui il fondamentalismo, con le semplificazioni, le forzature violente, riesce però a rispondere. Allora, proprio da quelle domande bisogna cominciare per proporre invece una direzione di risposta diversa, dalle domande fondamentali sulla sofferenza umana. E vi ringrazio. Finito. Grazie Marco. Molto già intriganti le questioni che sono state poste nei due primi interventi, ma magari ci rifletteremo in sede di chiusura di questa seduta con qualche battuta finale. Proseguiamo il nostro percorso con Giorgio Gomel, Jewish Call for Reason. che ovviamente dovrai spiegare cos'è. Io parlerò di cose ebraiche, anche se sono un ebreo, come dire, dilettante, nel senso che la mia formazione, professione da economista, ma mi diletto di cose ebraiche da molti anni. Sono stato sia dal lato politico, sono stato molti anni fa il cofondatore con altri di un gruppo ispirato a Buber, gruppo Martin Buber, Ebrei per la Pace. Dove è finito? Sì. Dove è Barca? Ah, David. Ah, ho capito. E poi, certo, lunedì al forum sulle disuguaglianze. Sì, no, sì, infatti interverrò anche lì. Vabbè, mi occupo così, insomma, adesso non lavoro più in Banca d'Italia, mi occupo molto di Israele e Palestina, insomma, sia dal lato politico e sia dal lato di società civile. Mi occupo di una associazione che americana originalmente, fondamentalmente ebraica ma non soltanto, adesso europea, che io presiedo in Europa, è registrata formalmente a Parigi ma attiva in più paesi, che finanzia progetti comuni e cooperativi di ONG israeliane e palestinesi che lavorano insieme cross borders in molti ambiti, di ambientale, educativo, eccetera, sanitario, eccetera. Allora, ho trovato molto interessanti intanto le cose dette da coloro che mi hanno preceduto, e poi molto interessante il tema, diciamo, delle identità e delle appartenenze che volete affrontare. Io dirò qualcosa, forse un po' dilettantesco, insomma, ma dal lato su questo tema di oggi, che appartiene molto fortemente, insomma, all'ebraismo come ad altre culture, religioni e sistemi dottrinali, e cioè il rapporto fra universale e particolare. Il rapporto fra universale, cioè i valori, diciamo, valori e principi che comprendono il lessico dello stare insieme, dell'unità del genere umano, e particolare, cioè la differenza nelle sue molteplici espressioni. Conoscete, immagino, Ephraim Lessing nel suo Nathan il Saggio, scritto in pieno illuminismo alla fine del Settecento, ritrae questa figura di Nathan, che è un uomo saggio, assertore della tolleranza religiosa. Cosa chiede in modo retorico Nathan a un certo punto? Sono gli ebrei e i cristiani, ebrei e cristiani prima di essere umani, implicando con ciò che si è prima un essere umano e poi un ebreo o un cristiano o altro. Io penso ad una variante di Lessing, cioè un Nathan che insegni che si è esseri umani per via dell'essere ebrei e che analogamente cristiani o musulmani sono esseri umani per via del loro appartenere al cristianesimo o all'Islam. Essere ebrei o cristiani o islamici è una variazione di un unico singolo tema, secondo me, dell'appartenenza all'umanità. Questa dualità fra particolarismo e universalismo è una costante nella storia molto lunga e accidentata degli ebrei, cioè da un lato il monoteismo, cioè l'essere gli umani ad immagine e somiglianza di Dio, il Bezalel Elohim in ebraico, no, nella Bibbia, cioè tu sei immagine di Dio, e quindi c'è questa dimensione universalistica costitutiva dell'ebraismo, e l'idea messianica, che è l'altra ovviamente componente che esprime, diciamo, l'universale. Dall'altro però l'esistenza concreta degli ebrei nella diaspora, in comunità spesso recluse ed oppresse, soggette a esili forzati e discriminazioni fino all'emancipazione di metà fine Ottocento, è stata dominata dal particolare. Questa, diciamo, dualità fra particolare e universale è un tratto costitutivo, direi. Poi, insomma, Giacomo magari mi confermi, è un po' un problema dominante della società contemporanea, cioè il come conciliare il principio il vincolo dell'eguaglianza dei diritti e il principio invece del diritto alla differenza. Si pensa agli immigrati, cioè gli immigrati da un lato chiedono di essere trattati nello stesso modo, indipendentemente dalle proprie preferenze private, nel credo religioso, nel costume, ma dall'altro insistono per il rispetto della loro diversità, del particolare, sul piano etnico, sul piano religioso, culturale, per quanto attiene per esempio al diritto di famiglia, alla possibilità di culto, all'orario di lavoro, eccetera, eccetera. È un dilemma molto concreto, no? Queste che le nostre società, nel loro diventare multiculturali, con contraddizioni, regressi, soprattutto, insomma, nel mondo nefasto che viviamo in questi giorni. ed è un dilemma che le nostre società affrontano, e cioè fino a qual punto le differenze fra individui e comunità possono essere riconosciute come legittime nelle loro conseguenze sui modi di vita, sull'organizzazione sociale, sui rapporti di lavoro. Ma nel contempo che alcune regole fondamentali del convivere devono essere da tutti condivise e rispettate. Così è stato essenzialmente nella vicenda degli ebrei della diaspora, che è una vicenda di esili da un lato, di trasmigrazioni, di insediamenti, ma con interazioni molto strette di una minoranza diciamo, storicamente minuscola con le società circostanti. La dimensione universalistica, diciamo, del pensiero ebraico dalle origini si esprime nel codice di Noè, che consiste nei 7 principi consegnati ai figli di Noè, quindi al genere umano nella sua interezza, per fissare le regole basilari della convivenza umana. Soltanto due, i primi due di questi 7 hanno una natura teologica, cioè il divieto dell'idolatria e della blasfemia. Il resto, diciamo, riguarda norme di convivenza fra gli umani, il divieto di omicidio, di furto, di atti sessualmente illeciti, di nutrirsi di animali, nonché l'obbligo di istituire tribunali per imporre il rispetto di quei 6 principi basilari. Cioè l'ebraismo è sì fatto per gli ebrei e per chi desidera unirsi a loro, ma ai non ebrei è concesso un futuro di salvezza purché osservino il monoteismo e praticano una vita retta secondo i principi noachidi. Nel concreto poi della storia sociale degli ebrei, questa dialettica fra universale e particolare ha assunto forme diverse. Se guardiamo al Novecento, che ovviamente ci interessa, insomma, molto, molto da vicino, il paradigma, diciamo, dell'ebreo paria teorizzato da Hannah Arendt nelle origini del totalitarismo, cioè l'ebreo ribelle che insorge contro la propria marginalità e l'oppressione e combatte per sovvertire l'ordine sociale alleandosi con altri oppressi, ha dominato la cultura ebraica e quella dell'Occidente in generale. Diciamo, questa dottrina, chiamiamola così, e esperienza esistenziale, anche storicamente vissuta, dell'ebreo paria, si è in larga parte spenta sul finire del secolo testé trascorso e anche oggi si è assopita per un insieme di ragioni, non le posso trattare al momento, ma si è assopita questa carica rivoluzionaria dell'ebreo campione delle trasformazioni politiche e culturali della società, in parte la condizione oggettiva di noi ebrei a spingere verso questo esito. Gli ebrei della diaspora vivono ormai soltanto in Occidente, non c'è più un mondo ebraico, diciamo, nell'Africa del Nord o nel resto del Medio Oriente, al di là di Israele. In larga parte apparteniamo a strati medio-alti delle società, istruiti, integrati, e tendiamo probabilmente a conformarci ad interessi, valori e comportamenti di questi strati, generalmente istruiti, integrati, globalizzati. In più, dopo il genocidio hitleriano, la nascita travagliata di Israele come luogo di rifugio dalle persecuzioni e il suo diritto ad esistere in pace e sicurezza tuttora in forze, e il risorgere intollerabile di fenomeni di antisemitismo in Europa oggi, di una malattia dell'Occidente che persiste, ricorre anche se in situazioni mutate, rimuovendo tabù e rinnovando stereotipi ancorché in situazioni mutate, un'enfasi, diciamo, sul proprio particolare, cioè un'enfasi sulla difesa particolarista dei propri interessi, è probabilmente giustificato. Cioè, quindi abbiamo vissuto il genocidio, Israele è in condizioni di comunque in forze di non normalità, di non pace, c'è un risorgere dell'antisemitismo nel mondo, in particolare in Europa, quindi, come dire, una difesa particolaristica dei nostri interessi è probabilmente giustificata, ma io penso che questa difesa sia giustificata soltanto entro certi limiti. E, nella solitudine, in un mondo ostile, è successo soprattutto negli anni, diciamo, negli anni 90, ma anche in questi primi decennio o due decenni del secolo in essere, che non pochi intellettuali e opinion leaders ebrei in anni recenti negli Stati Uniti, ma anche in Europa e anche in Italia, insomma, nella sua piccolezza, hanno cercato amici e protettori impropri nella destra politica, soprattutto nella cultura dei neoconservatori negli Stati Uniti, fra i cristiani integralisti, in nome di cosa? In nome della difesa di Israele e della comune avversione all'Islam, cioè avvicinarsi ad una destra che è con un fondo antisemita, ma che è filo israeliana. Io penso che questo sia un errore tra alcuni di noi, penso che sia più degno moralmente e più efficace sul piano politico, anche per la difesa del futuro degli ebrei, combattere a fianco di altre minoranze, combattere il razzismo e la discriminazione che sono rivolte oggi contro altri soggetti deboli ed emarginati, richiamandoci ai valori universalistici dell'ebraismo, la giustizia, la dignità dello straniero, la difesa dei più deboli. Questo diciamo non solo perché non solo per un fatto soggettivo, cioè perché siamo noi ebrei testimoni e portatori della memoria della discriminazione, ma perché vi è anche un interesse oggettivo degli ebrei nel lottare contro forme di esclusione anche quando esse non colpiscono direttamente gli ebrei, e nel vivere in società diciamo plurali, aperte, in cui le differenti identità, soprattutto se sono identità di minoranza, siano riconosciute e rispettate, perché molte volte nella travagliata storia degli ebrei razzismo, esclusione sociale, coercizione religiosa si sono poi riflesse infatti in odio e violenze rivolte contro gli ebrei. Quindi in questo senso dico c'è anche un interesse oggettivo da parte nostra. Adesso ritorno un attimo sul tema del dilemma, della dualità fra universale e particolare, e poi sul tema della identità, che è così importante in questa insomma nella vostra impostazione del gruppo di lavoro. L'identità umana, qui dico una ovvietà che certamente è conosciuta e riconosciuta da tutti voi, è un qualcosa di molto complesso, no? Perché è una interazione di sensi di appartenenza, di riferimenti collettivi molteplici. È peraltro vero, secondo me, che all'ossessione diciamo della differenza e delle gerarchie fra identità, che è proprio di atteggiamenti xenofobi e razzisti che noi combattiamo, non dobbiamo però opporre il mito di un'uguaglianza astratta fra gli uomini, perché le differenze esistono ed è la comunicazione fra di esse a generare progresso. Io ricordo una frase di Lévi-Strauss in cui lui diceva: occorre evitare l'avvento di un mondo in cui le culture animate da una passione reciproca non aspirassero ad altro che a celebrarsi l'un l'altra, in una confusione in cui ciascuna di esse perderebbe il fascino che avrebbe potuto esercitare sull'altra e la propria ragione di esistere. Quindi è giusto ovviamente affermare la propria identità e allo stesso tempo, come dire, riconoscere all'altro un analogo diritto è altrettanto valido, insomma, di affermare la propria. Certo, anche qua dico un po' una ovvietà, ma insomma l'identità propria non può essere affermata in modo esclusivistico, e cioè individuo o collettività devono essere disposti a mettere in dubbio i propri riferimenti in rapporto o in conflitto con l'altro. E nella storia dell'Occidente, insomma, è vero che alcune concezioni, chiamiamole fortemente, forse falsamente universalistiche e totalizzanti, di matrice cristiana, illuministica o marxista, hanno negato e compresso le identità differenziali, rifiutando come residuo o reazione al progresso o alla redenzione ogni specificità culturale altrui. Cioè gli universalismi hanno agito spesso come una forza di assimilazione e omologazione a un modello dominante, come a voler recidere alle radici le identità storiche collettive. Ora, la diaspora ebraica perché è molto interessante da questo punto di vista? Perché è un caso così importante, affascinante per certi versi, è interessante? Perché è la storia di una minoranza che sulla base di una identità sedimentatasi fondando elementi molto complessi di religione, cultura, appartenenza comune, ha però interagito strettamente con le società nelle quali si è storicamente inserita. Questo rapporto con le culture circostanti è stato ricercato e voluto nelle forme di comunità in cui gli ebrei si aggregavano e organizzavano non solo come spazio offerto all'individuo, e nelle comunità si è cercato con esiti differenti nel complesso divenire della storia ebraica di conciliare il pluralismo delle forme di identificazione, come si dice, i tanti ebraismi quanti sono gli ebrei, con la trasmissione e l'osservanza della tradizione, la legge, le norme della vita associata, lo studio. Quindi insomma è un caso interessante per certi versi, come dire, Anche qui qualche insegnamento può trarsi rispetto, diciamo, all'inserimento in Occidente di comunità diverse, perché, come abbiamo notato sostanzialmente anche in un paese come l'Italia, quando si immigra in un paese all'inizio c'è un forte, diciamo, impulso assimilatorio, perché tu vuoi assorbire il linguaggio, no? Le forme di pensiero e di vita occidentali, ma in una seconda fase cosa succede? Intanto non immigrano più soltanto gli individui, ma collettività, famiglie, collettività o gruppi, comunità più vaste, quindi ne scaturiscono, come dicevo all'inizio, dei problemi di assetto giuridico, di rapporto con lo Stato. Quindi per certi versi l'esperienza delle comunità ebraiche, anche in un caso come quello italiano, è interessante, perché come sapete le comunità ebraiche sono state riconosciute, diciamo, dallo Stato italiano agli inizi, diciamo, dell'Italia unitaria, anzi in particolare da Carlo Alberto nel 1848, e poi il fatto importante è stata l'intesa con lo Stato firmata nel 1987, così come molte altre intese da altre comunità e congregazioni religiose. In queste intese, diciamo, qual è in due parole il senso dell'intesa? È che tu, comunità ebraica, accetti la legge dello Stato, per esempio in alcuni campi in cui è in contrasto con le norme dell'ebreismo, per esempio il caso della sepoltura, perché la sepoltura ebraica è il sudario, il corpo della terra, non bara, niente del genere, però ovviamente nel caso dell'intesa con lo Stato italiano, come dire, ci siamo conformati, gli ebrei si conformano alle leggi dello Stato. Però in altri comparti, in altri sensi, lo Stato cosa fa? Riconosce invece la differenza ebraica nel caso dell'intesa con l'ebraismo, o protestante, anabattista, induista, eccetera, nel caso delle altre intese. Per esempio, cose notissime a tutti voi, consentendo che gli animali siano macellati secondo la tradizione ebraica, che le festività religiose siano osservate, per esempio con le necessarie deroghe nell'orario di lavoro, negli esami scolastici, nei concorsi pubblici. Insomma, il punto, diciamo, filosofico, e poi qui capisco che devo tagliare, quindi mi restano 5-6 minuti forse, il punto filosofico, insomma, generale, al di là della specificità dei casi che citavo, è un po' questo. Io non penso che ci siano delle ricette facili, ovviamente, per lo sviluppo di società plurali, aperte e autenticamente multiculturali. Pensare che il conflitto fra culture possa essere soppresso è illusorio. Aveva ragione Lévi-Strauss allora, penso che abbiamo ragione oggi se crediamo, come me, che il conflitto fra culture non debba essere soppresso, sarebbe illusorio pensare diversamente. Ma bisogna trovare gli antidoti perché le relazioni interculturali siano sì dialettiche ma non di dominio. E questo è possibile soltanto se si abbandona la prassi per cui la cultura minoritaria, nel caso dell'ebraismo ovviamente, una cultura minuscola, minoritaria, sia chiamata ad assimilarsi a quella egemone. Ora, tratto adesso di un tema che è un pochino a latere, ma che è importante dal punto di vista del vostro argomento complessivo delle appartenenze, cioè cosa è cambiata nella condizione ebraica, come è cambiata la condizione ebraica con la nascita dello Stato di Israele. Cioè, ovviamente è cambiata profondamente, perché gli ebrei hanno riacquistato una dimensione politico, nazionale, statuale dopo 2 millenni di esilio senza una terra e uno Stato. E il sionismo, diciamo, come movimento di emancipazione nazionale degli ebrei, nacque esattamente con l'intento di rimuovere l'eccezionalità della condizione ebraica di un popolo disperso e perseguitato e di risolvere nel lessico ottocentesco la questione ebraica, cioè assicurare agli ebrei un luogo di rifugio dalle persecuzioni e trasformarli in una nazione normale dove fossero maggioritari e padroni del proprio destino. Perché è cambiata profondamente quindi la condizione degli ebrei nel mondo? Perché adesso agli ebrei, diciamo, hanno una scelta, no? Fra un ebreo diasporico come me o come David McNaghy o come altri, ha una scelta fra il permanere nella diaspora oppure una esistenza indipendente in Eretz Israel, come si dice in ebraico, nella terra di Israele. Conseguire, diciamo, la normalità della pace, della sicurezza, dell'integrazione nel Medio Oriente. Quindi il sionismo in questo senso è stata una rivoluzione dirompente nell'ebraismo moderno post-emancipazione, perché l'ebraismo post-emancipazione ha assunto nello Stato di Israele, con la nascita dello Stato di Israele, un'identità collettiva, politico-nazionale. Certamente pace e integrazione nella regione sono lontani. Come ben sappiamo, uno Stato ebraico sovrano non significa di per sé sicurezza fisica per i suoi abitanti, né la rimozione della condizione ebraica di precarietà, come dimostrato dal fatto che il diritto di Israele a un'esistenza legittima e sicura nel Medio Oriente è ancora messo in forza. Però è vero che nel concreto esistere degli ebrei del mondo c'è oggi una bipolarità, e questo ha cambiato fortemente, diciamo, la nostra condizione, no? C'è questa bipolarità fra diaspora Israele, fra esilio e Stato-Nazione. È una dualità non scevra da conflitti, ma che offre agli ebrei un'alternativa fra l'integrazione nelle società occidentali in cui essi vivono e che si evolvono, come dicevo precedentemente, verso forme di democrazia e convivenza multiculturale con molte laceranti contraddizioni, faticose contraddizioni, e l'appartenenza invece ad uno Stato nazionale. E quindi c'è una biforcazione che è abbastanza complessa, devo dire, in certi casi anche traumatica nell'ebraismo nel mondo. È un po' una separazione, se possiamo usare questo termine un po' colloquiale, fra due famiglie del popolo ebraico. Separazione che probabilmente si accentuerà con il tempo, se e quando Israele diventerà davvero uno Stato normale, con uguali diritti per i suoi cittadini, ebrei e non, e sufficientemente integrato in un Medio Oriente libero da guerre. E questo perché? Perché oggettivamente gli ebrei di Israele della diaspora vivono sotto due regimi diversi. I primi vivono un'esistenza nazionale sotto un governo ebraico, che dispone degli strumenti classici dello Stato sovrano, la polizia, la giustizia, l'esercito. I secondi invece, come me, per esempio in Italia, siamo cittadini di altri stati alle cui leggi ci conformiamo, alla cui vita civile e politica partecipiamo. Dico ancora due cose, se il Presidente mi consente, tagliando alcune altre che effettivamente sono un pochino così, ridondante. Per tutti i seminari. No, beh, sì. E questo, diciamo, questa normalità, no, diciamo, questa separazione, questa biforcazione di cui ma forse è un pochino fuori tema questo, perché appartiene magari al secondo argomento, però lo dico brevissimamente. Questa biforcazione, questa separazione delle due famiglie, cui accennavo così molto, molto superficialmente, molto brevemente, in realtà è complicata da almeno due elementi. Uno l'ho già accennato, e cioè la normalità di Israele è molto dubbia, è distante, in un Medio Oriente scosso da violenze e da pericoli di disintegrazione degli stati. Quindi il legame fra ebrei della diaspora e Israele resta molto stretto, e la centralità di Israele nella vita degli ebrei del mondo resta un fenomeno concreto. Israele è un po' un unicum nelle relazioni internazionali quanto al modo in cui una madre patria realizza il rapporto con la sua diaspora. Israele pretende spesso di rappresentare, soprattutto i suoi governi, i governi di Israele pretendono spesso di rappresentare gli ebrei nella loro totalità e ritengono per lo più irrilevante le opinioni della diaspora. Però gli atti di Israele si ripercuotono oggettivamente, in maniera diretta o indiretta, sugli ebrei del mondo. E quindi esso non dovrebbe, i suoi governi non dovrebbero prescindere da tali effetti nel modulare la loro azione politica. Spesso le azioni dei governi di Israele sono percepite come decise per e per conto del popolo ebraico nella sua interezza. Faccio due casi, per esempio: uno, dopo gli attentati antisemiti in Francia del 2015-2016, ci fu questo, Netanyahu andò ai funerali dopo l'attentato all'ipermercato Kasher, i funerali in Francia, nel momento dei funerali o subito dopo, in una conferenza stampa, dico: ebrei di Francia, è finito qui, il vostro futuro, dovete venire in Israele. Ecco, questo è un caso eclatante. Un altro caso più complesso dal punto di vista politico-diplomatico è la questione degli accordi con l'Iran. E invece, come dire, questi rapporti sono in realtà imperfetti, indefiniti, complessi e contraddittori, ecco, i legami, appunto, gli obblighi reciproci fra diaspora e Israele. E invece dal lato, diciamo, dell'ebraismo nella diaspora è una condizione, diciamo, anche rispetto a Israele certamente non monolitica, perché gli ebrei della diaspora sono uniti, tranne alcune esigue minoranze che sono così un po' dogmaticamente antisioniste, ma sono uniti certamente circa il diritto di Israele ad esistere come popolo e come Stato. E però siamo divisi, e spesso angosciosamente anche, critici circa i suoi atti politici. È un pluralismo di opinione, questo che è un atto, che è un valore, secondo me, secondo noi, essenziale da preservare. Per esempio è importante liberarsi dall'idea, che io ritengo falsa, che la difesa di Israele e la battaglia contro l'antisemitismo, è un argomento di grande attualità, anche contemporanea, insomma, che la battaglia contro l'antisemitismo e la difesa di Israele e il suo diritto ad esistere in condizioni di pace e di sicurezza esigano sempre comunque il sostegno indifferenziato alle scelte dei suoi governi, e che sia dovere per gli ebrei della diaspora allinearsi a questo precetto pena l'esclusione e l'accusa del tradimento. Insomma, io ho vissuto personalmente questa esperienza un paio di volte per le posizioni che noi, insomma, come gruppo, come abbiamo assunto. Cioè, io penso che gli ebrei della diaspora hanno il diritto e talora il dovere, con la dovuta compostezza ovviamente di persone che non sono cittadini né elettori di quello Stato, che non pagano le tasse, che non servono, diciamo, nell'esercito rischiando di morire, e però insomma hanno diritto e talora il dovere di esprimere le loro posizioni, ancorché dissidenti, quando ritengono che le azioni del governo di Israele siano sbagliate o autodistruttive per il futuro del paese come Stato ebraico e democratico. Finisco qua perché grazie. Ho già accennato a temi che forse appartengono a una seconda parte del vostro... Grazie a voi. Grazie. Grazie molto, Giorgio. Sì, in effetti, per essere un ebreo dilettante, ci hai messo abbastanza... abbastanza aggiunto carne al fuoco. Grazie molto. Prego, la parola a Svamini Amasanda Giri dell'Unione Induista Italiana. Prego. Arriva davvero la dilettante adesso. Buongiorno a tutti, grazie di questo invito. E ecco, la mia figura qui è abbastanza insolita, nel senso che avrebbe dovuto esserci il presidente dell'Unione Induista Italiana, ovvero l'avvocato Di Maria, che ha seguito tutto l'iter dell'Unione Induista verso l'intesa e tutte le questioni relate appunto al dialogo tra spazio pubblico e... invece ci sono io, vicepresidente dell'Unione Induista Italiana, che mi occupo di dialogo interreligioso e mi occupo del... Ah, devo accendere la sorte, ma spero, come tutti dicono, di essere brevissima, ma lo sarò. E, mi occupo di dialogo interreligioso e di dialogo con le comunità induiste migrate in Italia, e quindi è un dialogo assolutamente arduo e difficile. Quindi io pensavo di darvi semplicemente una breve testimonianza dell'induismo in Italia, così sconosciuto, anche se ha siglato un'intesa. Quindi con la sigla dell'intesa entra nello spazio pubblico inevitabilmente, quindi la sigla di un'intesa con l'Unione Induista, e poi seguirà la testimonianza dell'Unione Buddista, segna sicuramente una grande sensibilità di un paese che è cosciente di essere aperto, multireligioso, multiculturale. E devo dire che questa intesa per le comunità, nonostante abbia avuto un lunghissimo iter, sono ancora prematuri i tempi per la comunità per viverla veramente e pienamente. Cioè, i problemi nella comunità di migranti indiani sono gli stessi problemi della comunità musulmana, che non ha siglato nessuna intesa. E quindi il problema sono di costruire dei luoghi di culto degni di tale nome, quindi entrare nelle normative, discutere con le normative vigenti. Voi sapete bene che vi sono normative, le cosiddette leggi anti-moschee nella regione della Lombardia, quindi abbiamo le difficoltà dove c'è questa grande presenza induista in Lombardia, Emilia Romagna, in Lazio invece affrontiamo problemi come le agromafie, in Sicilia abbiamo gli stessi problemi, cioè avere dei luoghi di culto, avere un passaggio della legalità trovandosi in condizioni di grande difficoltà economica, ma non solo, ma anche culturale, perché la migrazione nei paesi italiani non è stata come la migrazione nei paesi anglofoni come gli Stati Uniti, dove sono emigrati dall'India solo coloro che avevano minimo 2 lauree. Quindi la migrazione negli Stati Uniti è completamente diversa da una migrazione in Italia, che invece è costituita solo da coloro che sono analfabeti. Quindi li troviamo nell'agricoltura, nell'industria, ma non hanno la forza, non hanno la voce di difendersi né culturalmente e tantomeno politicamente o economicamente. Quindi ecco che l'Unione Induista Italiana ha fatto questo grande passo, questo grande riconoscimento, ed entra nello spazio pubblico, quindi diciamo che la democrazia che ascolta gli ultimi, anche se siamo la religione più antica del mondo, più antica perché siamo senza tempo, quindi possiamo essere e la religione più antica del mondo e una delle più numerose, però una democrazia che ascolta gli ultimi e gli umili, quindi io qui sono a parlare di questi. E qui entriamo questa possibilità di entrare nel dibattito pubblico è per sensibilizzare le problematiche, dare voce alle problematiche di questa comunità. Ora, i temi sono molto complessi perché entriamo nella difficoltà e innanzitutto in una mancanza di conoscenza. Solo il fatto che anche qui parliamo di le tre religioni monoteiste vuol dire che si ignora che l'induismo è una religione monoteista, è assolutamente basata sull'uno, perché i Veda più volte sono proprio tutto l'impianto teologico del Veda è basato sull'uno. E anche se il verso dei Veda recita Dio è uno, ma i saggi lo chiamano con molti nomi, quei molti nomi non sono molti, molte, le diverse divinità non cambiano l'idea che Dio è uno, cioè Dio è uno ma si chiama con modi diversi. Allora qui entriamo in quella visione dell'induismo dove agli occhi degli occidentali appaiono degli ossimori, Dio è uno ma sono molti. Chi sono gli dèi, quindi Dio è uno, oppure vedi l'unità nella diversità, il tempo è ciclico ma è anche lineare. Quindi quando noi ci entriamo nello sguardo con l'Occidente dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere e aprire e abbattere i nostri pregiudizi. Quindi abbiamo dei problemi di definizione. L'induismo, la parola induismo, non definisce la nostra religione. E qui si parla di religioni e fedi. Anche la parola religione e fede non trova una traduzione esatta nella lingua indiana. Quindi per induismo noi usiamo la terminologia, una delle tante terminologie, non c'è una definizione. Quindi entriamo in un luogo dove abbiamo difficoltà, anzi non abbiamo definizioni, non ci può e non c'è una definizione di induismo. Entriamo in un mondo plurale, in un pensiero plurale, in una dimensione religiosa di DNA pluralista. Allora non abbiamo il nome, ma il nome è Sanatana Dharma. E allora con la parola Dharma noi traduciamo il termine religione. Ma noi non intendiamo Dharma quello che qui si intende, in Occidente si intende con religione, ma con Dharma noi intendiamo, dalla parola sanscrita, dalla radice sanscrita dr, che vuol dire sostenere, nutrire, mantenere, con la parola Dharma noi intendiamo ciò che nutre e ciò che sostiene tutta l'armonia tra gli esseri, e il cosmo, tra gli esseri, il cosmo e Dio. Quindi partiamo da un concetto di interrelazione. In questa interrelazione noi non abbiamo la distinzione tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. Quindi, torno un attimo indietro sul significato della parola Dharma. Con la parola Dharma noi traduciamo anche la parola dovere. Quindi il Dharma è il dovere del religioso, del fedele, di avere determinati comportamenti che nutrono e sostengono tutto ciò che vive, tutto ciò che è mobile e immobile, dicono le scritture. E allora il mio dovere è un dovere sempre interrelazionale, cioè un dovere verso me stesso, ho un dovere verso gli altri, ho un dovere verso la comunità, ho un dovere verso il pianeta, ho un dovere verso l'universo, ho un dovere verso Dio. Però questo concetto di dovere è meno normativo delle religioni occidentali, perché si dà spazio al concetto di responsabilità, quindi al concetto di libera coscienza. Quindi la libera coscienza privilegia l'obbligo e il dovere. Quindi entriamo in campi semantici, teologici, completamente differenti da quello che noi siamo abituati a vedere nel, appunto, nello spazio, nella visione occidentale. E allora la sfida rispetto a questa cultura, così da una parte qui sconosciuta, perché non è solo il problema che non veniamo definite monoteiste, poi l'induista è sempre molto, sapete, in India hanno sempre questo gesto che vuol dire, in realtà vuol dire sì, però sembra un accetto l'opinione degli altri, sì, va bene, però questo accettare il fatto di non avere una definizione ci pone la sfida della conoscenza reciproca, della conoscenza e la cultura dell'altro, e ci pone il tema dell'educazione. Quindi questo problema di non conoscere le religioni presenti nella cultura di chi vive in Italia è un problema che noi troviamo nelle scuole. Nelle scuole i testi scolastici portano tutte queste nozioni che non, in cui non ci riconosciamo, ma questo penso che sia un problema anche per altre religioni, della religione ebraica, eccetera, dove non ci si riconosce nelle definizioni dei testi scolastici. Anche questa è una sfida che nel dibattito democratico con le varie parti della cultura e della politica dovrebbe interessare e poter agire. E quindi non abbiamo una distinzione tra fede e religione, e non abbiamo nemmeno una distinzione tra pubblico e privato. Chi va in India lo percepisce subito. La religione è esposta in una maniera esponenziale, scusate il bisticcio, quindi ci si mette addosso i propri colori religiosi, i segni religiosi sono portati nello spazio pubblico proprio grazie a una concezione così di questa dimensione che la diversità non costituisce un problema, e questo è il DNA, direi, dell'induismo stesso. Ora vorrei citare un grande riformatore dell'induismo. L'induismo ha costantemente, ciclicamente avuto dei grandi riformatori che cercano di ristabilire nella società indiana l'ordine alla prevaricazione tra l'esercizio religioso e la società e il bene pubblico. Ora, Gandhi è stato un grande riformatore ed è stato anche una voce sentita ed ascoltata e percepita anche in Occidente. E quindi Gandhi di nuovo costituisce un ponte culturale dove ci fa vedere e conoscere un certo tipo di induismo che è fondato sul concetto della non violenza, e la sua forza è la verità. Quindi concetto di non violenza, ahimsa, satya di verità, è la forza che la verità pone. E allora vi voglio leggere una citazione di Gandhi proprio sulla questo tentativo di descrivere l'induismo. L'induismo è un organismo vivente, suscettibile di crescita e decadimento. È soggetto alle leggi della natura. Uno e indivisibile in origine, è cresciuto fino a divenire un immenso albero dagli innumerevoli rami. Segue il ritmo delle stagioni, ha un autunno, un'estate, un inverno e una primavera. Allo stesso modo le piogge lo nutrono e lo rendono fruttifero. Si basa e non si basa sulle scritture, ne trae la sua autorità da un solo libro. La Gita è universalmente accettata, ma anch'essa mostra solamente una via. L'influenza malapena i costumi, e l'induismo, come il Gange, è puro e senza macchia la sorgente, e si contamina lungo il suo corso. Al pari del Gange, è benefico nel suo effetto complessivo, assume una forma diversa in ogni provincia, ma serba dunque la sua essenza più profonda. Il costume non è religione. Il costume può cambiare, ma la religione rimane inalterata. La purezza dell'induismo dipende dall'autocontrollo dei suoi seguaci, dei fedeli. Ogni qualvolta la loro religione è stata in pericolo, gli indù sono stati sottoposti a severe penitenze, hanno cercato le cause del pericolo e concepito mezzi per combatterlo. Gli shastra, le scritture, sono in continuo sviluppo. Il Veda, le Upanishad, le Smriti, Purana e gli Itiasa ebbero origine nello stesso tempo, quando ognuno di loro scaturì da bisogni di un'epoca particolare e perciò sembrano contraddirsi a vicenda. Questi libri non annunciano in modo diverso le eterne verità, bensì mostrano come queste fossero praticate all'epoca della loro scrittura. Una pratica abbastanza buona in un determinato periodo avrebbe condotto, se ripetuta ciecamente, in un altro alla degenerazione del popolo. Quindi ecco che questa definizione di una impossibilità di avere un insieme dogmatico che rimane sempre immutabile nel tempo, ma una religione che un insieme, la chiamiamo l'induismo anche un insieme di fedi diverse, che però in questo insieme di diversità sa mantenere una coesione, sa mantenere un principio comune. Quindi ecco che questo carattere del carattere religioso, diciamo, che ci propone un tipo di visione assolutamente pluralista e inclusivista. Quindi in genere diciamo che una società senza religione è una società debole, è una società sostenuta da valori deboli e da cittadini sempre più individualisti e meno comunitari. La religione dovrebbe avere il compito importantissimo e delicato di nutrire la società con i valori e le etiche che siano non solo strumenti di salvezza spirituale e individuale, ma di unione, di aggregazione sociale basata sui principi di amicizia, di libertà, di rispetto, di compassione e di solidarietà. L'induismo insegna la libertà e la ricerca della libertà quale bene supremo, è l'essenza di ogni insegnamento. Se una società non ha libertà religiosa, istituzionale e di fatto, non può definirsi democratica e liberale. E questo non è un problema che riguarda esclusivamente il credente, ma è il problema di tutti. Infatti laici e religiosi, tutti i cittadini dovrebbero avere gli stessi principi etici che permettano una vita sociale armonica. La sacralità della vita, la libertà di pensiero sono beni irrinunciabili per l'evoluzione umana. Quindi chi si affaccia al mondo indiano deve sconfiggere pregiudizi che l'Occidente è stato il laboratorio culturale e politico nel quale si siano trovate le sintesi più efficaci tra le religioni, la politica e la società. E quindi vale la pena di prendere in esame le radici della democrazia indiana, se non altro perché spesso tendiamo a dimenticare il dibattito pubblico e cediamo alla tentazione di attribuire l'impegno democratico dell'India solamente alla forza dell'influenza britannica, dimenticando che questa avrebbe dovuto funzionare in modo simile in altri paesi usciti dall'impero. In ogni caso la questione non riguarda solo l'India, perché la tradizione del ragionamento pubblico è strettamente legata alle radici della democrazia nel mondo. Ma nel momento in cui gli indiani hanno avuto la fortuna di una lunga discussione pubblica e di tolleranza alla eterodossia intellettuale, questo nesso universalmente valido è stato particolarmente efficace quando più di mezzo secolo fa l'India indipendente divenne il primo paese non occidentale a darsi una costituzione decisamente democratica e non usò le esperienze europee o americane, ma attinse anche alla propria tradizione, aperta al ragionamento pubblico e alla eterodossia argomentativa. Vorrei concludere, non vorrei rubare troppo tempo agli altri oratori, vero? Vorrei fare una conclusione con una riflessione di Amartya Sen, proprio che ci parla del dibattito pubblico e dice proprio che è possibile trovare in antiche tradizioni di discussione pubblica in tutto il mondo, nelle culture diverse, ma appunto l'India può rivendicare una certa preeminenza. Quindi volevo concludere con questa citazione. Quando L'imperatore Ashoka, quindi un imperatore, vari sono stati i momenti storici dal buddismo, dalla conversione dell'Ashoka del buddismo che codificò le regole del dibattito, all'imperatore musulmano Akbar, che appunto aveva trovato il modo di migliorare, di affrontare difficili problemi dell'armonia sociale, e diceva che questo, il superamento di questa consiste nella pratica della ragione, una costante esaltazione della riflessione attraverso il dialogo. Nessuno si è inquieto a causa della religione e ognuno e a ognuno si è concesso di passare da una fede che gli piace. E quindi nell'iscrizione di un tempio indiano dell'XI secolo troviamo questa preghiera: possa Hari, il signore dei tre mondi, venerato come Shiva dai Shivaiti, come Brahman dai Vedantici, come Buddha dai Buddhisti, come regolatore supremo dai Logici, come essere emancipatore dai Jaina, come simbolo dell'obbedienza dai Ritualisti, ascoltare le nostre preghiere. Grazie. Grazie. Grazie molto. Grazie molte. Credo che questo intervento abbia aperto porte diverse anche a noi che ci dilettiamo di queste materie. Di questo siamo particolarmente grati. Ora proseguiamo il nostro percorso con l'intervento di Raffaele e Luise. Grazie. Buonasera, grazie per avermi invitato a parlare in questo contesto e lungo questo progetto di fedi e libertà, oggi fedi e appartenenze, che finalmente a un livello accademico, in qualche modo istituzionale, recepisce quel lungo cammino che a livello di lavoro di frontiera alcuni di noi hanno anticipato da 30-40 anni. Io ho fatto anche il giornalista e quando i miei pezzi 40 anni fa li dettavo ai dimofoni, dicevo si stanno incontrando a Camaldoli, ad esempio, le fedi, le diverse fedi religiose, questi erano gli anni 80, i primi anni 80, il dimafonista scriveva sempre sedi religiose, perché non esisteva la parola. Sono passati 40 anni circa, questa iniziativa che io saluto con grande convinzione, con grande gioia, marca un piccolo passo avanti. Piccolo perché, come ha dimostrato anche l'intervento di Hamsananda, noi siamo ancora nello stadio dell'inizio della conoscenza reciproca. Quindi il dialogo ha da venire ancora. E siamo di fronte alla necessità, in un mondo che è plurale perché ci sono tante soggettività religiose, etniche, culturali, portate dalla dinamica della storia ad avvicinarsi e a convivere, ma che ancora con difficoltà si avvicinano a un pluralismo possibile. Quella del pluralismo è una scoperta che noi dobbiamo fare, ci stiamo limitando a definirla teoricamente, ma il pluralismo è costitutivo del religioso e del culturale. E allora non esistono solo due cose nel mondo plurale, come dicevo io adesso, che abbiamo, che non possono essere accettate: una gerarchia delle religioni e delle civiltà, come è stato infaustamente praticato e si pratica ancora in modo criptico anche oggi, e non esista nessun popolo eletto, essendo tutti eletti. Siamo di fronte a un cambiamento di paradigma. Io penso, professore Bongiovanni, che alla luce di quanto noi abbiamo di fronte e di quanto ha praticato e detto il fondatore del dialogo interculturale e interreligioso contemporaneo, Raymond Panikkar, noi siamo di fronte a un cambio di paradigma che nasce proprio dal fatto che alle realtà nazionali monocultuali si sono venute sostituendo realtà multireligiose, multiculturali, multietniche e multiculturali, un panorama totalmente differente, laddove per pluralismo costitutivo noi dobbiamo necessariamente intendere, come diceva Rodotà, per la laicità, come costitutiva pari dignità, non omologazione delle differenze, ma pari dignità delle differenze. Giacomo Maramao parla in modo molto affascinante di universalismo delle differenze. Panikkar e io, al seguito di Panikkar, vorrei proporvi la riconciliazione delle differenze, che differenze rimangono ma che si fecondano reciprocamente. Ma volevo dire una parola sul cambio di paradigma a cui siamo di fronte e che si evidenzia con questo straordinario pontificato nel suo livello di profetico, non nel suo livello di governo, che è abbastanza in ombra, però a livello di profezia il Papa ci ha mostrato una immagine di Dio nuova. Il Dio della misericordia è solo della misericordia, che è anche il Dio biblico, ma non è solo il Dio biblico, perché era anche il Dio delle Cherem, della soluzione finale, il Dio che nella Bibbia per 435 volte è irato, anche nel Vangelo, nei Vangeli 35 volte. È un cambio di paradigma non indifferente, ma a questo cambio di paradigma noi dobbiamo aggiungere il vero cambio di paradigma. Diceva Bongiovanni, l'autonomia umana è un errore, perché Dio esiste, e se Dio esiste non ci può essere vera, totale autonomia umana. Ma non possiamo nemmeno pensare a una eteronomia assoluta di Dio. E allora l'autonomia e l'eteronomia devono convivere in qualche modo armoniosamente, non bonisticamente. L'armonia è un fatto complicatissimo e difficilissimo, e anche molto fragile. Non c'entra nulla con la ricerca esasperata di un buono comunque. E Panikkar ha l'intuizione vincente. L'autonomia dell'umano viene riconosciuta insieme all'eteronomia, insieme di Dio, armonizzate nella ontonomia, cioè Dio, uomo e mondo sono uniti costitutivamente da questo rapporto di armonia che, come già aveva anticipato in qualche modo Bonaventura, San Bonaventura, è presente in ogni parte della realtà. Ogni cosa, diceva Bonaventura, pensate voi, questi rimandi, no? Geografico, storici e temporali, ogni parte della realtà è trinitaria. Ma trinitaria per Panikkar è la trinità radicale, e di fronte alle tre catastrofi che abbiamo di fronte, la catastrofe ecologica che è stata ricordata, ma c'è la catastrofe economica, perché non ne siamo fuori assolutamente, anzi siamo pronti a rifare gli stessi errori del 2008, c'è anche la catastrofe antropologica, la catastrofe psichica. Ecco, di fronte a queste tre catastrofi, la risposta della Trinità radicale è assolutamente terapeutica, ma non è nata per questo ovviamente, illumina tutta la realtà. Allora il Dio trinitario è quel Dio che non è né uno, né due, né tre, perché Dio non è un oggetto, non ha numero, non è nemmeno uno. E lo si attinge in un modo non tipicamente occidentale. È un concetto Apsananda indù, l'Advaita, no? Il non dualismo. La fede è un momento conoscitivo, differente ma non opposto alla conoscenza razionale. E allora, per venire al tema di oggi, no? Fedi e appartenenze. È bello quello che voi dite su fedi, non religioni e appartenenze, fedi e appartenenze. Che cos'è la fede? È un concetto, ci diceva Amsananda, molto occidentale e poco traducibile, però in qualche modo si è sforzata di tradurlo. Noi possiamo tradurre tutto questo. Il dialogo, difficilissima via che ancora dobbiamo cominciare a praticare, al di là del fatto che ci riempiamo la bocca della parola dialogo proprio atropaicamente per allontanarne il pericolo, perché il dialogo è la via obbligata ed è una via rischiosa, si può morire perché ci cambia radicalmente dentro. E quello che dicevo su Dio penso che veramente sia espressione di questa, di questo cambio di paradigma. La fede è una pura tensione costitutiva dell'umano. Non c'è un'altra definizione per fede, che si incarna nelle diverse culture, nelle diverse epoche, nelle diverse società. E non è mai, mai un fatto monolitico, perché l'identità è comunque un fatto eccentrico. Non è chimicamente pura, mai. Il monoteismo ebraico riprende dal monoteismo e comunque dall'ambiente spirituale religioso egiziano. La fede quindi è questa tensione senza oggetto che si incarna nelle credenze. Queste credenze insieme alla fede costituiscono la religione. È vero che c'è la differenza fra fedi e religioni, ma non solo, perché per fede, come giustamente è stato scritto nell'abstract che ci è stato offerto, perché le fedi inglobano anche e annoverano anche la fede dei non, tra virgolette, credenti e confessionali. Questo è anche per la religione. Esiste, chiamiamolo secolarismo, che è più inclusivo e più dilatato di laicità, che comunque rimane anche nell'interpretazione molto bella del mio amico Stefano Rodotà. Ti ricordi i convegni fatti insieme con Rodotà e il cardinale Casper? Ecco, ci sono c'è questa religione secolarista. Che cosa si intende? Gli umanesimi, nelle loro diverse forme e accezioni, sono un corpus di riti, ci sono anche i riti, miti, regole, valori, stili di vita, orientamenti, che raggiungono una omogeneità da religione, cioè tale da garantire la realizzazione di chi in questa religione si riconosce. Questo detto senza nessuna ombra di confessionalismo, senza voler inglobare e assimilare nessuna forma di libero pensiero, perché laico è Dio, secolare è Dio. Voi sapete quella barzelletta, forse sì, i capi religiosi stufi alla fine di farsi la guerra, questo conflitto che sta rinascendo in maniera formidabile per protagonismo di potere geopolitico, vanno da Dio. Chi meglio di lui può finalmente sciogliere la matassa? Qual è la religione, signore, gli dicono, vera? Dio li ascolta, ascolta tutti quanti i rappresentanti, alla fine dice: figli miei, io vi ho ascoltato, se vi potesse aiutare vi aiuterei, ma perdonate, io non mi intendo di religioni. E allora religione è questo rilegare il tutto, Dio, uomo e cosmo. Noi abbiamo di fronte questo cambio di paradigma, che in un mondo forzatamente, e viva Dio, anche aprendo grandi spazi di umanizzazione in prospettiva, che oggi si sperano non si vedono, e di sopravvivenza delle creature, ha bisogno di un Dio diverso. Noi abbiamo sbagliato Dio e siamo di fronte a questo cambio di paradigma. Allora, io ho tre minuti. Tre minuti, allora in questi ultimi tre minuti, visto che è un mondo plurale, ma non pluralista, ma non di pluralismo, di questi soggetti che si incontrano in un momento di crisi delle identità globale, con questa tettonica dei movimenti a livello geopolitici, con grandi contraddizioni per ogni continente che cambia, perché tutti i continenti cambiano secondo questa cultura tecnoscientifica e il paradigma, il perfido paradigma tecnoscientifico che domina, che cerca di omologare, contro il quale le realtà locali, in un sussulto di sopravvivenza della propria identità, si contrappongono e si chiudono nei propri confini. Una risposta sbagliata a un'esigenza estremamente giusta. In questo contesto di pluralità che non trova un respiro e una risposta, appare quanto sia vero quello che poi anche il Papa ha detto. Riprendendo Panikkar, perché ho parlato col Papa e il Papa mi ha detto: sì, sì, ho conosciuto Panikkar, so chi è. Il dialogo è la parola cruciale del nostro tempo, una parola difficilissima, ripeto, rischiosa, al di là di qualsiasi retorica. Ma quale dialogo? Nell'abstract si ricorda il fallimento del multiculturalismo, quello repubblicano assimilatorio francese in particolare, con questa idea astrattissima di laicità che devono rivedere, che hanno già provato a rivedere, che non è cogente con il nostro tempo. Ma anche il multiculturalismo più inclusivo anglosassone ha creato dei compartimenti stagni. Sull'orizzonte, sullo sfondo di questi fallimenti, di queste macerie, l'unica via che noi abbiamo di fronte è il dialogo interculturale, è l'interazione tra soggetti diversi che rimangono diversi, ma che si riconoscono, perché come è scritto in tutte le scritture sacre, riunite proprio nel testamento cosmico, perché ogni scrittura sacra ha la sua intangibile e pari dignità rispetto alle altre, da sempre è scritto: ama il prossimo tuo come te stesso. Allora la base del dialogo è l'altro, come qualcuno in precedenza ha ricordato. Ma l'altro è una parte di me. L'altro come l'altra persona, come l'altro gruppo, come l'altra nazione, come Dio per ultimo, A maiuscola. È radicato dentro di me. Deve mutare anche il paradigma antropologico. Allora il dialogo non può che essere un tesissimo dialogo dialogale in cui io non dialogo con te per sopraffarti, per portarti il mio verbo, ma per fecondarci insieme, affinché quel benedetto conflitto tra appartenenza e cittadinanza possa in prospettiva essere superato, in prospettiva, sia all'interno dei diversi soggetti, perché non esiste il dialogo interculturale, interreligioso, esiste il dialogo intraculturale, intrareligioso, insieme al dialogo interculturale e interreligioso. C'è, ad esempio, per fare un solo esempio, bisogno di fare cittadinanza nella Chiesa Cattolica alle donne, ad esempio. È un dialogo su vasta scala, profondo. Profondo vuol dire senza epochè, cioè senza esclusione dei momenti dottrinali, dogmatici più profondi, attingendo al cuore dello spirito, della spiritualità, delle cose più riservate, sacre, sante. Ecco, questo è un esempio di come un dialogo interreligioso, intrareligioso aiuti, e questo è valido per tutte le confessioni religiose, anche quelle laiche, a purificarsi e a fecondarsi insieme, rimanendo diversi, ma stando insieme, come quelle rarissime coppie che vanno bene d'accordo. Grazie. Grazie a Raffaele Luise, con un particolare riferimento che molti di noi avranno sentito molto facile e sensibilizzante, che è il ricordo di Pannikar, che certamente su questi terreni ha arato molto e molto lavorato, e la sua stessa storia personale era un melting pot vivente di religioni e di culture. Allora, proseguiamo con la parola a Giacomo, ringraziandolo per lo sforzo che farà, visto che la tosse finora è stata protagonista. Sì, grazie. No, mi devo scusare per la voce, che è fortemente limitata dalla attacco influenzale che mi porto dietro da un paio di giorni, non drammatico ma incidente sulla mia voce, sulle mie corde vocali. No, sono contento delle cose che ho ascoltato, tutte di alto livello. È stato già detto prima da Franco Ippolito quali sono anche le ragioni profonde dell'interesse della Fondazione Basso per queste tematiche. Risale allo stesso Lelio Basso un interesse al fenomeno religioso in quanto rappresentativo della dimensione della soggettività. Lelio Basso ha avuto una formazione fortemente volontaristica. Il fattore, quindi, molto pur essendo marxista, per lui il fattore oggettivo, soggettività, rappresentava un elemento decisivo. E di conseguenza le fedi, le religioni, in qualche modo giocavano un ruolo importante anche nel quadro del discorso intorno alla politica. Aggiungiamo che era un marxista anomalo, lussemburghiano, e quindi critico nei confronti di Kautsky, della Seconda Internazionale, di quel determinismo, ma anche di Lenin. Quindi una visione movimentista, libertaria, fortemente volontaristica del marxismo, dove il dialogo con il cristianesimo è documentato anche da una importante raccolta di scritti di tanti anni fa di Lelio. Detto ciò, qui occorre secondo me chiarire anche un'altra cosa, cioè per un verso la distinzione tra religione e fede. Anche i laici aconfessionali hanno una fede, hanno un quadro di valori che orientano la loro azione, ma soprattutto né le religioni che abbiamo ascoltato oggi e che ascolteremo poi più avanti, nelle fedi di cui si è parlato, hanno nulla a che fare in modo diretto con le culture. E qui il punto fondamentale. Le religioni hanno una portata transculturale. Max Weber, che è stato secondo me il più grande sociologo mai esistito, pur con tutti i limiti del quadro comparativo che avevo allestito nel ultimo libro da lui pubblicato in vita, che era La sociologia della religione, e malgrado ciò Max Weber in qualche modo aveva già individuato come il quadro delle civiltà fosse in qualche modo determinato in partenza da quelle che lui chiamava le Weltreligionen, le religioni mondiali, le religioni universali, come io chiamo le religioni mondo, delle religioni che in qualche modo hanno come proprio interlocutore non un paese determinato, ma il mondo intero. E questo non soltanto i tre monoteismi, ma anche naturalmente, come abbiamo sentito dalla signora Suamini Amsananda, anche naturalmente l'induismo, anche il buddismo sono delle religioni mondo. Ciò detto, il problema che noi avevamo presente nell'organizzare questa iniziativa era che all'interno delle nostre democrazie, in particolare all'interno del contesto europeo, il problema delle appartenenze a comunità di fede, a tutte le comunità di fede, no? Non è risolvibile all'interno dello spazio della cittadinanza. E questo è un altro tema molto importante, cioè non si può risolvere la questione delle diverse comunità di fede, ma naturalmente anche delle agenzie religiose, certamente, no? E delle diverse chiese, in qualche modo, no? Non si può risolvere all'interno dello spazio tradizionale della cittadinanza. E quindi vi è un limite costitutivo della stessa idea di cittadinanza, per quanto ampia essa possa essere. Vi è un limite costitutivo dell'idea di cittadinanza rispetto alle tematiche delle appartenenze al plurale. Ovviamente dentro questo contesto il pluralismo è una eccellente cosa rispetto alla negazione del pluralismo e soprattutto delle fedi minoritarie in un contesto territoriale determinato come può essere quello italiano, tedesco, francese e via dicendo, no? E tuttavia il pluralismo non è risolutivo dei problemi. E questo è l'altro aspetto che cerchiamo un po' di analizzare. Il pluralismo spesso è l'inizio dei problemi. Lo stesso multiculturalismo va benissimo, ma non sempre multiculturalismo. E come lo ha giustamente definito un grande economista come Amartya Sen è un monoculturalismo plurale spesso, soprattutto in un contesto di cittadinanza come per esempio quello che si è venuto realizzando soprattutto nel Regno Unito. Diversa la situazione degli Stati Uniti, molto più flessibile, diversa la situazione italiana, fino all'attuale governo, fino all'attuale ministro degli interni, vogliamo dirlo in maniera chiara tutta questa cosa, no? Era molto più elastico fino ad allora, noi e il modello degli Stati Uniti eravamo il modello molto pragmatico ma tutto sommato non lontano da quella che potrebbe essere una possibile soluzione. Il modello del monoculturalismo plurale, il falso multiculturalismo, è il modello che Amartya Sen ha presente quando pensa alla Gran Bretagna, al Regno Unito fondamentalmente, no? dove hai il giudice delle singole comunità religiose, in particolare i giudici islamici o l'imam, eccetera, che come dire, delibera qual è la pena che va comminata a un membro della comunità, e questo viene poi registrato di fatto dal giudice pubblico, ma questo può accadere anche per altre comunità naturalmente, non è questo. Allora, qui allora il problema secondo me è fare un discorso serio sui modelli che abbiamo ereditato dagli ultimi due secoli della democrazia occidentale, e che sono, qui il punto lo dico in maniera molto netta, ma lo sapete, i discorsi che avete fatto, lasciavano risuonare l'eco un po' di questa diagnosi, sono due modelli fallimentari. Il modello assimilazionista repubblicano alla francese e il modello multiculturalista imperiale di tipo britannico non funzionano più e creano dei problemi molto seri, perché trasformano le comunità di fede in comunità costrette in qualche modo a corazzarsi di logiche strategiche. Se il multiculturalismo è quella cosa lì, una serie di ghetti contigui, di monadi che competono tra di loro, è del tutto inevitabile che quel falso pluralismo determina una conflittualità per, guadagnare sempre più spazi. E quindi si trasformano le comunità di fede in identità. Questa è la cosa, si corazzano con logiche identitarie, diventano comunità blindate. Questo è uno dei rischi di ogni comunità di fede, è sempre stato, intendiamoci. Ma la cosa straordinaria delle religioni mondo, delle Weltreligionen, è nel fatto che hanno una vocazione universalista. Nel quadro, e qui l'avete anche detto, alcuni interventi l'hanno detto in maniera molto, molto acuta, e quindi non sto a dire, ma nel quadro globale col quale noi abbiamo oggi a che fare, abbiamo due fenomeni, che sono due fenomeni a mio parere molto, molto, molto rilevanti. E il primo fenomeno è visibile nelle parole che vengono adoperate. Gli scrittori postcoloniali, a partire da Edward Said, un palestinese i cui scritti io amo, perché aveva sull'esilio, quelle sono... Edward Said diceva: Abbiamo una diaspora generalizzata nel mondo. Il tema ebraico della diaspora passa al fondatore degli studi postcoloniali, che è un palestinese. È molto interessante questo fatto. Nell'epoca della cosiddetta globalizzazione tutti viviamo l'esperienza dell'universale sradicamento. Se volete un'espressione anche più legata all'epistemologia, esilio cosmico. Siamo tutti esiliati. Non possiamo più pretendere di avere casa propria. Naturalmente, come diceva prima, poi c'è una sorta di rimozione dell'eccezionalità ebraica con la costituzione dello Stato di Israele. Però sicuramente quell'aspetto va ripreso, perché è un aspetto molto importante. Israele è un fenomeno dell'Occidente, di quello che è accaduto nell'Europa, è un risultato della tragedia europea. È inutile che vi elenchi i tanti filosofi ebrei del Novecento che io amo immensamente, a partire da Walter Benjamin, ma anche a partire da uno che non era un filosofo ma era ebraissimo come Albert Einstein, diceva: ma mettere lì uno Stato non crea un problema, visto che c'è dell'altra gente che ci abita. Però poi alla fine questo Stato si è costituito e quindi occorre in qualche modo tenerne conto. Sono tutte una serie di problemi molto delicati che qui affiorano, dove però questo elemento ebraico dell'universale sradicamento è diventata la posta in gioco del fenomeno dei migranti e della loro soggettività. Un altro aspetto, poi vado alla conclusione. Le religioni, tutte le religioni, non sono dei palazzi, delle residenze, ma sono dei blocchi di umanità in viaggio. Viaggiano, si trasformano le religioni. E questo è molto importante. Noi abbiamo organizzato questo anche per dire: sono in viaggio. E io trovo che è molto importante. Quindi non sono dei luoghi in cui, dei siti, non solo dei siti, come li intende il multiculturalismo, reificandole e determinando quindi l'autoreificazione anche delle comunità di fede a volte, soprattutto quando si sentono emarginate, no? E non sono siti, ma sono dei convogli viaggianti, viaggiano. Si trasformano, cambiano, fanno esperienza. E badate bene, è molto importante il mutamento. Nel cristianesimo cattolico, con l'ultimo Papa, vi è stato sicuramente una come si dice, come la possiamo chiamare, molto più che una rottura, una destabilizzazione anche. Una fortissima destabilizzazione della tradizione gerarchica della Chiesa. Somiglia moltissimo al momento pentecostale, no, degli Atti degli Apostoli, in cui la collegialità, in qualche modo, la comunità collegiale, quella che decide. Ora, ovviamente sono una confessionale, anche se naturalmente trovo stupido dire che appunto una confessionale è privo di fede. Ho la mia fede e ritengo che i discorsi vadano affrontati proprio sulla base di quello che sta accadendo, dei mutamenti che stanno accadendo. E ultima cosa, e qui come è possibile attivare una qualche forma positiva delle fedi nel contesto delle democrazie attuali, in particolare delle democrazie europee, dell'Europa. E qui il primo aspetto è a mio parere un aspetto molto, molto delicato. Intanto le religioni dovrebbero incominciare a individuare i momenti di discriminazione che oggi stanno ritornando. Discriminazione dei migranti, guardate bene, la discriminazione del migrante e la risorgenza di forme di antisemitismo sono due facce della stessa identica medaglia. La cifra simbolica è sempre lì. Una volta che noi abbiamo cominciato a declinare la cosa in termini di antisemitismo, allora tutte le altre differenze, e qui è stato già evocato, la mia idea è che dobbiamo andare al di là dell'universalismo indifferenziato di matrice illuministica e dobbiamo andare verso quello che io chiamo universalismo delle differenze, ma soprattutto che assuma il concetto di differenza come la cifra ontologica, la trama ontologica dell'universale. La differenza è la trama ontologica dell'universale. Se non cogliamo questo aspetto, non faremo altro che ripetere gli orrori del passato. La differenza è la trama ontologica dell'universale. L'universale è un tessuto di differenze e la differenza è ciò che dà all'universale il corpo, l'anima, lo spirito, l'energia. E guardate bene, questo significa anche che la nostra posizione universalistica deve essere quella di un universalismo della differenza e non dell'identità, non dell'identità. E, ultima cosa, che possono fare qui la mia posizione è diversissima da quella di Habermas, il quale si limita a dire un valore aggiunto di senso. E a mio parere dire questo è un po' un collo di bottiglia. Problema un altro per me. Le religioni, tutte le religioni, anche quelle non di salvezza, non di redenzione, come può essere il buddismo, come può essere l'induismo e via dicendo, o con un tipo di salvezza declinato diversamente, una salvezza non messianica. Ecco, questa anche quelle religioni, in qualche modo, quelle religioni sono state, tutte le religioni, straordinari laboratori di traduzione. Non solo traduzione di testi. Moshe Ben Maimon, che è il più grande filosofo ebraico medievale, scrive la guida dei perplessi in arabo, Dalatat Hairim, poi controlla la traduzione in ebraico, More Nabukim. Vedete come è tutto un gioco di traduzioni, le traduzioni dal greco all'arabo, gli arabi che ci mettono in mano Aristotele. E poi le traduzioni dal greco bizantino al Rinascimento italiano. È tutto un lavoro, cioè la civiltà è un lavoro, e le religioni sono stati degli straordinari laboratori di traduzione. Io credo che dal momento che oggi la salvezza dell'umanità è legata proprio a questa capacità di fare della traduzione un progetto politico per poter uscire fuori dalla Babele nella quale noi viviamo, ecco, io penso che le religioni sono benvenute non come un valore aggiunto, ma come un laboratorio di civiltà e di vita. E credo che abbiamo aggiunto anche uno scenario particolare a quello che, e tra l'altro ringrazio molto Giacomo, mai sentito un A confessionale che cita così a proposito i Vangeli e le scritture. Va bene, concediamo un altro passaggio. David McNagy, tocca a te. Buonasera, grazie anche Giacomo per questo intervento che mi toglie la possibilità di dire alcune cose che abbiamo condiviso in questi anni. Il vero problema oggi è trovare uno spazio dove sia possibile la traduzione. E lo spazio può essere in parte pubblico, in parte privato. In parte sociale, nessuno può rivendicare la, come dire, la possibilità di dire io sono il più bravo traduttore. Il problema è di creare uno spazio. Creare uno spazio significa fare un passo indietro, e qui il mito ebraico della creazione, declinato dalla mistica, in particolare dall'Uria, ci dà una bella descrizione, perché descrive la creazione del mondo, o meglio la creazione precedente alla creazione del mondo, come un atto di ritrazione dell'infinito. L'atto di ritrazione ha reso possibile la creazione di uno spazio vuoto dove fosse possibile poi, come dire, il veicolare l'energia divina. Poi nel mito luriano questa energia era talmente possente che i vasi non erano in grado di contenerla, per cui è avvenuta una sorta di implosione nel mondo divino, e questa implosione ha fatto sì che le scintille divine si diffondessero nel cosmo e restassero intrappolate. Per cui il passaggio successivo della creazione concreta del mondo ha reso possibile l'esistenza di un essere umano che ha il compito di recuperare tutte queste scintille rimaste intrappolate nel cosmo. Questa tesi viene ripresa da Walter Benjamin, che era amico di Scholem, e Scholem è stato colui che ha riproposto queste tematiche all'interno della cultura europea, mostrando una frattura dentro il mondo ebraico post-illuminista, perché l'illuminismo ebraico è stato preceduto dalle eresie messianiche ebraiche, allo stesso modo in cui tutto questo è avvenuto in parte anche nella civiltà cristiana, con la nascita di movimenti ereticali che hanno messo in discussione la centralità della tradizione per come era definita. Quindi in questo senso siamo tutti alla ricerca del recupero delle scintille rimaste intrappolate nel cosmo. Questo potrebbe essere il compito del traduttore, non un caso che Benjamin abbia dedicato un saggio proprio al ruolo del traduttore. Nel caso specifico dell'ebraismo noi abbiamo una duplice situazione, cioè gli ebrei si sono conservati nel corso della storia malgrado le persecuzioni, perché hanno una parte dell'ebraismo si è identificata con la scrittura, se no non si sarebbero conservati. E questo ha, come dire, definito un tipo ebraico nel corso dei secoli, che è presente già dall'epoca di Esdra. Nel secolo precedente all'era in cui viviamo, una sentenza rabbinica, farisaica, so che i farisei non sono simpatici al Papa, per cui gli ho fatto arrivare tramite qualcuno e ha funzionato l'indicazione che per noi ebrei è offensivo sentir parlare male dei farisei, perché i farisei sono stati l'espressione di una grande civiltà della scrittura. E che riproporre all'interno del dibattito della Chiesa attuale l'accusa di fare isaismo, per coloro che stanno al di fuori del cerchio magico dell'attuale papato, significa usare categorie antisemite per un dibattito interno alla Chiesa. E questo alimenta l'odio, perché non tutti sono in grado di decodificare dall'esterno. Le parole malate travalicano il contesto in cui sono state diffuse, come avviene per le dichiarazioni di un ministro dell'interno, e poi producono danni. Per cui la cura delle parole è il primo passo di questo spazio. La cura delle parole malate. E questo ciascuna tradizione lo può fare per se stessa. Non è necessario insegnare agli altri come farlo. È sufficiente porre la questione. Lo spazio del dialogo, il cosiddetto spazio del dialogo, può nascere non perché ci si incontra, ma perché ciascuno fa pulizia in casa, come si fa la settimana prima di Pasqua, come si fa il mese prima di Pasqua. Si puliscono le case, si butta via quello che non serve. E questo è il grande tema biblico del pane azimo. Si fa pulizia in casa. A Tripoli, dove è nata la mia famiglia, che ha vissuto 3 pogrom, io ne ho vissuto uno, ma ho giurato a me stesso che non avrei mai detto una parola di cui vergognarmi con i miei figli. E spero di restare all'altezza di questo giuramento per i pochi anni che ci restano, perché la vita è un passaggio. Ad un certo momento ci fu una peste, e come succedeva spesso nel mondo cristiano, perché il mondo islamico è stato costellato da antisemitismo, nonostante la mitologia che è stata costruita attorno al mondo islamico come mondo non antisemita, invece non è vero, la folla si scatenò contro la popolazione ebraica finché non scoprì che la peste produceva meno morti ebrei, perché le case degli ebrei erano case che a Pasqua conoscevano la pulizia attraverso che cosa? Il gesso. Cioè si pitturava, e questo uccideva batteri, la calce. Allora, il vero problema è fare pulizia del linguaggio. Per esempio il Corano trasuda di linguaggio antigiudaico, trasuda. Io leggo l'arabo, è violento. Poi so benissimo che nel corso della costruzione imperiale islamica le cose sono andate diversamente. Sarà difficile per il mondo islamico fare pulizia in casa se non recupera quella geniale idea dell'interpretazione che si sviluppò nell'Egitto di Maimonide all'interno della tradizione islamica, che dava valore all'interpretazione. La tradizione mutazilita, per esempio, che è caduta un po' in disgrazia, tra virgolette, per via del wahhabismo, che ha demolito quanto di meglio c'era nelle tradizioni del Mediterraneo, proponendo un'idea fondamentalista della lettura del testo, distruggendo l'idea dell'interpretazione. Guardate che non è un caso che nell'Egitto mutazilita Maimonide possa diventare il medico del re e scrivere la guida dei perplessi. Non è un caso. Quindi questo è il primo punto che noi possiamo assumere. Ed è molto, come dire, non è una cosa grandiosa, non deve redimere, non ha nulla di irenico. No, semplicemente fare pulizia nella propria casa, depurare il linguaggio, curare le parole malate, trattare i testi come se fossero persone da curare, e nel curare i testi curiamo noi stessi. È un approccio terapeutico il mio. È un approccio terapeutico ai testi. Ciascuno ha una sua tradizione di appartenenza, ciascuno ha il compito di liberare in quella tradizione di appartenenza quanto c'è di meglio, ma non in una prospettiva irenica che presuppone l'idea che poi tutti saremo uguali. Non saremo mai uguali, ma nessun essere umano è uguale all'altro. E le differenze all'interno di una tradizione spesso sono più grandi che le differenze tra tradizioni diverse, così come avviene in qualunque processo antropologico-culturale. Questo è un primo elemento. Un secondo elemento, torno a quanto dicevo prima, gli ebrei come popolo della scrittura. Ora immaginate nel secondo secolo avanti Cristo una sentenza che afferma che tutti devono studiare fino a 16 anni. Ma manco la Rivoluzione Francese ha stabilito questo. Alla Rivoluzione Francese serviva gente che sapesse fare di conto, serviva a costruire uno Stato, ma stabilire che è un obbligo religioso imparare a leggere e scrivere e l'adorazione di Dio passa attraverso la conoscenza della scrittura ha modificato antropologicamente l'intero popolo ebraico. In un'epoca in cui a scrivere erano pochi, erano i sacerdoti, erano coloro che avevano il potere sugli altri, noi invece abbiamo una nazione, un'intera popolazione che assume la scrittura come valore in un'epoca in cui la scrittura non era vantaggiosa, perché in un mondo contadino al confine della povertà passare ore della giornata assumendo come valore ultimo imparare a leggere e a scrivere, potete immaginare quale costo economico avesse tutto questo, ma questo ha creato le premesse nel corso dei secoli a quella grande rivoluzione ebraica che si è verificata tra 800 e 900 con l'uscita dei Chetti. In Italia l'80-90% della popolazione all'epoca della riunificazione era analfabeta. Gli ebrei non erano analfabeti. Bar Kokhba parlava tre lingue, scriveva in greco, in ebraico, in aramaico. Quindi è un dato fondamentale che spiega i processi anche che hanno reso possibile la sopravvivenza della cultura ebraica nel corso dei secoli. Un costo altissimo tutto questo ha avuto, di selezione continua, di processi di assimilazione all'esterno, perché gestire, ma è stato l'unico strumento di sopravvivenza, non ce n'era un altro, se non sparivano avrebbero fatto la fine delle bioniti, dei cristiani giudei che amavano il prossimo come te stesso, ma non accompagnavano al comandamento dell'amore verso il prossimo: adesso vai e studia Hillel, Asaken, vissuto morto 10 anni prima della nascita di Gesù, probabilmente. Lo stesso tema evangelico nella tradizione farisaica, per questo il Papa dovrebbe riflettere un po' di più su questo, l'appello alla conoscenza, alla scrittura, non perché questa sia salvifica, ma perché è uno strumento fondamentale. E nella tradizione ebraica diventa uno strumento per declinare la propria appartenenza religiosa. Questo è un elemento che ci aiuta a capire perché Freud, per esempio, che nel 70° anno, 1926, quando deve declinare l'identità ebraica, ed è l'unica volta in cui Freud utilizza il termine identità, quindi Freud era sospettoso come Giacomo, aveva paura dell'eccesso di questo termine, cosa utilizza? Gefühlsmächte, le potenze oscure del sentimento. Poi dopo parla della consapevolezza della medesima costruzione psichica, cioè lui che era ateo ad un certo momento non gli bastano i sentimenti e scopre una comune appartenenza psichica. Dopodiché non la sa più spiegare, perché essendo ateo, non avendo una cognizione antropologica moderna alla Lévi-Strauss di tutti questi problemi, scrive Totem et Tabù, è un testo che non vale nulla da quel punto di vista, siamo agli albori dell'antropologia, non è lì che si trova la grandezza di Freud. Ricorre a Lamarck. E che cosa dice nei tre saggi sull'uomo Mosè? la struttura psichica ebraica è rimasta identica all'epoca di Ezra. Incredibile, 2600 anni, stabile. E quindi si confronta con la tragedia dell'antisemitismo riaffermando addirittura in positivo, a differenza che Marx nella Judenfrage, in positivo questa continuità ebraica legata secondo me alla scrittura. Freud non l'aveva interamente capito, non aveva interamente capito, questo è il punto che gli mancava, il rapporto con la scrittura, che è un elemento che caratterizza tuttora la civiltà ebraica. Terzo, perché è importante che ci cominciamo a riflettere di più sulle specificità storiche delle tradizioni. Bisogna che questo nostro spazio cresca approfondendo i singoli aspetti delle storie religiose. Per esempio, in Italia il Risorgimento aveva bisogno degli ebrei. Gli ebrei si sono identificati pienamente col Risorgimento. Questo spiega perché nel 38 il 7% dei docenti universitari fossero ebrei, con una popolazione che era l'uno per mille, e Bottai decide che deve sradicare violentemente tutto questo e lo fa più in fretta della Germania nazista. L'Italia è stata più veloce dei tedeschi in questo, non è vero che è stata una passeggiata quella roba lì, come alcuni hanno voluto far credere. Però che cosa sono stati gli ebrei nell'Italia dello sviluppo? Uno strumento utilizzato dalla borghesia, dallo Stato, dopodiché sono stati buttati via nel 38. Questa è la percezione della vittima per come ha vissuto il processo. È la stessa cosa nell'Unione Sovietica. Nell'Unione Sovietica i bianchi erano contro il mondo bolscevico, la gente che leggeva era contro il nuovo apparato che cresceva. C'era una nazione che sapeva leggere e scrivere, ridotta a condizioni di paria per secoli, che veniva utilizzata per la modernizzazione dello Stato, dopodiché veniva espulsa. Questo spiega il dilemma vissuto dall'ebraismo tra 800 e 900 e la nascita del sionismo. Io non credo che il sionismo, nonostante le sciocchezze sulla normalizzazione della vita ebraica che possono aver declamato tanti esponenti del movimento sionista, fosse quello il vero obiettivo. La forza del sionismo è stata, a differenza del movimento del 68 per capirci, o di tutti i movimenti di frattura radicale all'interno della civiltà, è che è rimasto ancorato all'antico, non ha rotto interamente col passato, se non sarebbe stato sconfitto. Se ha potuto creare una esistenza autonoma nazionale ebraica e perché il rapporto col passato non è stato distrutto, nonostante la vulgata vivesse la frattura tra antico e moderno come assoluto ed alcuni scrittori decandassero le divinità pagane in conflitto con la divinità biblica, in realtà non era questo il processo. Perché il kibbutz era in realtà una sinagoga dove non si pregava a Dio, ma si insegnava a non rubare, dove si divideva tutto, dove si mettevano in pratica i principi fondamentali della Bibbia. Era già una sinagoga. Quindi, in realtà, come avevano intuito alcuni mistici, quella gente era un veicolo di rinnovamento della tradizione. Mi avvio alla conclusione. Molti qui, e lo dico come psicoanalista, scusate, non vi offendete, ho sentito ripetere più volte che l'altro è una parte di noi. È vero. Però state attenti dall'elemento violento che c'è in questa affermazione, dove l'altro appare solo come una nostra proiezione da reintegrare e da riscoprire. L'altro è il nostro limite. Rinunciamo all'idea di possedere interamente l'altro. Lo so che c'era, però c'è anche una violenza nella banalizzazione delle parole. Noi dobbiamo curarle le parole. L'altro ci annuncia la presenza di Dio, l'altro stabilisce un limite, se vogliamo usare una terminologia a sfondo religioso. L'altro non è l'espressione di qualcosa di noi che dobbiamo riscoprire. Dobbiamo fare un passaggio successivo, perché se no precipitiamo in una idea irenica, dove c'è qualche cosa di più grande che riassorbe tutto. E questo immette, senza che ce ne rendiamo conto, la volontà di potenza, presente in ogni tradizione religiosa. Nell'ebraismo questo elemento di potenza è limitato dal fatto che l'ebraismo non converte tendenzialmente, non è interessato a convertire, quindi è una religione mondiale che da questo punto di vista è stata un po' vaccinata, a differenza del cristianesimo del passato e dell'Islam ancora attuale, e la volontà di potenza si esprime in termini spaziali, mentre nell'ebraismo si è espressa in termini temporali. La scrittura, l'approfondimento, le logiche sono state diverse dal punto di vista storico. Non voglio idealizzare nulla, voglio soltanto fornire alcune cornici per comprendere alcuni problemi. Quindi, evitiamo di vedere nell'altro una nostra proiezione che dobbiamo recuperare. Questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio che ci può aiutare di più è capire che in qualunque religione, in qualunque tradizione culturale, ci sono tre modalità, e questo lo dico come psicoanalista, di vivere il rapporto con la tradizione. C'è un rapporto di tipo saccheggio. Ci sono persone che saccheggiano la loro tradizione. Ed è un atteggiamento tipico di coloro i quali distruggono. E infatti diventano inquisitori, diventano persecutori. È un atteggiamento di saccheggio, distruzione. E quindi tendono a letteralizzare il messaggio, a non aprire a nuovi significati. Questo avviene nei periodi di crisi, quando le autorità tradizionali entrano in crisi perché non sono in grado di dare risposte, nei movimenti di grande sommovimento. È successo negli ultimi due secoli, per esempio, no? L'accelerazione del tempo, la secolarizzazione ha posto delle grandi sfide. C'è chi reagisce in questo modo. C'è un modo conviviale, e sono i partecipanti del dialogo che non fanno nessun dialogo, e qui sono perfettamente d'accordo con te. Ci sono dei professionisti del dialogo, no, che non fanno nulla, hanno un rapporto conviviale, ma non inteso positivamente come convivio, ma inteso semplicemente non creare conflitti. Poi c'è una terza modalità che invece crea conflitti. Crea amore e conoscenza e ostilità, si riattivano. E quindi noi dobbiamo tenere presente che tutto questo avviene nei rapporti con le altre tradizioni, ma anche nei rapporti con la propria tradizione. Quindi questo è un elemento di cui dobbiamo tenere conto. Quarto elemento, concludo. Il dramma della migrazione. Io ho lavorato per 30 anni con pazienti di culture diverse. Ho la fortuna di parlare l'ebraico antico e moderno, di parlare correntemente l'aramaico antico, di parlare correntemente tre lingue europee, e questo mi ha molto facilitato nel lavorare con pazienti provenienti da luoghi diversi. Mi è capitato più di una volta di aiutare pazienti arabi i cui genitori o parenti si fidavano di me perché sono ebreo, è interessante, io sono scappato dal mondo arabo. Si fidavano, perché nel loro mito interno ci si può fidare del medico ebreo, ci si deve fidare. Erano quelli che avevano un rapporto con la scrittura. Mi ricordo di un papà che mi portò una figlia per aiutarla, e uscendo le disse: Kuni mettenia ed arbi kifhnan. Letteralmente significa: stai tranquilla, questo è un arabo come noi. Interessante. molto, perché ci aiuta, crea degli spirali. Allora, che cosa succede a un migrante che fugge? Da un punto di vista psichico, un pezzo della sua identità è congelata da un'altra parte del mondo. Ma è un fatto fisico, psichico. Un pezzo della persona, e questo quando non è più una questione individuale, ma una questione collettiva, può diventare un problema. Un pezzo della tua identità sta da un'altra parte in senso materiale. Ha bisogno di essere tradotto, transitato, portato in viaggio, come diceva Giacomo prima, per le grandi civiltà. Ha bisogno di un altro linguaggio per potersi esprimere. Se ciò non avviene, avviene un cortocircuito micidiale di sofferenza individuale, di sofferenza collettiva e alla seconda, terza generazione di implosione relazionale. Da parte della civiltà che accoglie c'è un problema di spaesamento, di perdita del senso della continuità nel tempo. Una cosa è la fede come esperienza del divino o del non divino, altra cosa le culture strutturate che hanno bisogno di non spaesarsi troppo, di avere dei confini che non siano troppo chiusi, ma che non siano interamente aboliti. Questo l'individuo lo può sopportare se è un mistico, ma le collettività no, entrano in paranoia. O noi siamo in grado di governare questi duplici processi che sono psichici, ma hanno un'implicazione economica, sociale e culturale, oppure rischiamo di implodere pure noi. Questa è una grande sfida. E bisogna dire che su questo la cultura progressista ha fallito, non ha saputo rispondere ai problemi, è stata troppo irenica, è rimasta prigioniera di un dibattito che appartiene al passato, vedeva il mondo che cambia attualmente con gli occhi di 50-100 anni fa. Noi siamo oggi di fronte a un movimento epocale di milioni di persone. Questa è una grande sfida di civiltà rispetto ai quali gli strumenti culturali che abbiamo sono inadeguati. In una situazione in cui il tempo è accelerato, quindi creiamolo questo spazio, forse siamo coloro i quali, senza saperlo, stanno cercando di salvare il meglio della civiltà in cui sono vissuti. In fondo i monaci cosa hanno fatto nel passato? Hanno nascosto i libri, li hanno tradotti. E questo poi ha reso possibile, dopo secoli, la nascita delle università. Io vivo e penso in termini di millenni. Queste sfide non dobbiamo vincerle pensando ai prossimi 10, 15, 20 anni. Le dobbiamo vincere pensando ai prossimi 500 anni. Proviamo a ragionare così. Anche la vita diventa più sopportabile e la morte non fa paura. Grazie molte. Grazie davvero. A Davide Mecnagi, che ci ha riportato anche a delle dimensioni terapeutiche della nostra riflessione. La parola adesso a Giorgio Raspa, Unione Buddista Italiana. Grazie. Siamo stati serissimi nel rispettare assolutamente i tempi. E cercherò anche di essere breve. Mai dirlo prima. Perché? No, per semplice motivo che grandi cose sono state dette prima di me e io vorrei aggiungere quel poco che forse può servire a dare qualche spunto in più, piuttosto che ripetere. Mi ha colpito molto questo senso che il professor Maramao dice, religioni come laboratorio. Il buddismo, come lo conoscono gli occidentali, attraverso la cultura, attraverso l'incontro culturale fatto già nell'Ottocento, non esiste. Sono gli inglesi che lo chiamano buddismo, ma chiamano buddisti quei seguaci del Buddha. Chi segue il Buddha di sé dice: sono sul sentiero. E siamo sul sentiero, è un sentiero millenario, da migrante, da eterno migrante, perché il buddismo altro non è che la sintesi di una migrazione dall'India, inizialmente nel sud-est asiatico, e poi a seguito della persecuzione mogul in Tibet, e attraverso la via della seta, altra zona di commerci, l'incontro con la civiltà cinese, fino ad arrivare in Mongolia e proseguire ancora fino ad arrivare alle coste del Mar del Giappone e quindi in Giappone. Migrazione millenaria, unico sostegno e filo conduttore, credere nel prendere rifugio, cioè avere fede, fiducia nel Buddha, in colui che ha insegnato una via di liberazione, il Dharma, la via verso la liberazione dal dolore e dalla sofferenza, e il Sangha, in coloro che sono sul sentiero. La prima volta che ho avuto l'onore di incontrare Sua Santità il Dalai Lama è stata quasi, diciamo, forzata Sua Santità a chiedere a un cattolico, perché nessun buddista in Italia può esimersi dal dire sono cattolico prestato alla pratica del Dharma. Chiese che cos'è questo senso di colpa di cui io sento tanto parlare molti di voi. E non volevo dilungarmi su quell'invenzione del tal vescovo di Lione che incominciò a tacciare di eresia i valentiniani egiziani quando ricordavano la lezione di Tommaso, che al di là di tutto, diceva il Cristo, è venuto a mostrarci la sofferenza attraverso la croce, ci ha insegnato che attraverso la croce e attraverso guardare in faccia la sofferenza e non fuggirla, noi supereremo la sofferenza solo affrontando le cose così come sono. Diceva un grande maestro zen che se avesse potuto incontrare e studiare il Vangelo apocrifo per i cattolici di Tommaso, non avrebbe avuto bisogno di abbracciare il buddismo. Perché quella verità è una verità che sapeva e sa di verità di plurifede, che coglie l'essenza di tante fedi. Nel buddismo si pratica, nella pratica del buddismo si sta con quello che c'è, dalla sofferenza al sonno, alla gioia, al dolore. Si cerca di essere lì in quel momento con tutto se stessi. E questa è l'unica verità che ha il Buddha. Il Buddha ci dice: stai con te, non fuggire da te. Un altro elemento che mi aveva molto colpito, l'avevo letto qualche tempo fa, l'altro anno credo, in un numero di Internazionale, che ricordava i manoscritti del 1844 di Marx, dimenticati, negletti. Con essi è andato perduto il concetto di comunismo come umanesimo radicale. Leggo perché. Il comunismo, diceva Marx, non è semplicemente l'abolizione della proprietà privata, ma la riappropriazione dell'essenza umana da parte dell'uomo e per l'uomo, il totale ritorno dell'uomo a se stesso come essere sociale, e cioè come essere umano. Ci sono tutti i presupposti, non per un dialogo, per abbracciarsi e, scusate il termine, pregare insieme. quello che Ramon Pannikar, il lascito grande di Ramon Pannikar, che non è cultura intesa come sfoggio di erudizione, dimostrazione di quanto siamo noi, di fedi ostentate, scusate, l'ho messo proprio per fare questo gesto, ma quello di stare insieme pregando, assistere alla preghiera l'uno dell'altro con rispetto, con devozione, e scoprire che, e lo dico da buddista, cioè da praticante del Dharma da oltre 30 anni, avere la coscienza che mi posso inchinare e prostrare davanti alla croce, perché quel simbolo non è, come dice il Tribunale Europei, il simbolo universale di fede condivisa, no, è l'espressione dello stare di fronte alla sofferenza, alla sofferenza del Buddha, alla sofferenza che il Buddha ci ha insegnato a conoscere, ad apprezzare, inchinarsi e stare insieme, e quindi abbracciare gli induisti, i nostri fratelli induisti, ebrei, i musulmani, che tanto hanno da dire su questi discorsi e di cui tanto ignoriamo i cristiani, in un unico afflato. E questo è il portato del buddismo, che è in Italia, ma è in Europa, arriva già lui stesso come esempio di intertradizioni, alla ricerca del fattore comune che ci lega. E quindi credo che dalle lezioni del Buddha e dalle lezioni dei grandi maestri del buddismo si possono trarre questa ispirazione, che potrebbe essere un fil rouge, un filo comune per questo lavoro, che mi sembra estremamente importante e che noi condividiamo totalmente. Grazie. Nel nostro panel toccherebbe adesso Abdellah Redouane, ma non c'è. Allora, il professor Rocucci. Prega. Grazie. Allora, io farò un intervento un po' più impressionistico di quelli che mi hanno preceduto. Non avevo preparato una comunicazione strutturata come hanno fatto ben più meritoriamente di me coloro che mi hanno preceduto, ma sia a partire dalla traccia che c'era stata offerta, sia dall'ascolto del vostro intervento e relazioni, chiedo scusa se non ho potuto ascoltare l'introduzione e una parte del primo intervento, perché venivo da un seminario a Napoli, quindi non riuscivo ad arrivare prima. Proverò a porre alcune questioni, ecco, alcune questioni che... il mio non è un intervento confessionale, è un intervento che nasce più dalla... è chiaro che le persone non si sdoppiano, ecco, quindi sono pienamente la mia identità, il mio profilo, la mia storia, ma direi che soprattutto traggo queste riflessioni che vi propongo dal mio patrimonio di studioso, diciamo, di studioso che soprattutto si è confrontato su questi temi con il mondo russo. Io ho sentito parlare fin dalla prima relazione di questo tema del cambiamento dei paradigmi. Sarei un po' meno prudente su questo, un po' più audace, nel senso che non è che cambiano solo i paradigmi delle religioni e del rapporto tra la religione e la società, ma siamo in una stagione, direi, per usare un termine alla Koselleck, di Sattelzeit, cioè siamo in una stagione di passaggio, dove si arriva non lo so e non lo sappiamo, credo. E quindi è nel complesso, diciamo, dei fenomeni culturali, sociali, politici, geopolitici, che i paradigmi stanno cambiando, e necessariamente cambiano anche i paradigmi del rapporto delle religioni con la storia. Ecco, io sono uno studioso di storia, quindi questo elemento, diciamo, del rapporto tra la religione e la storia lo ritengo un elemento fondamentale. In questo senso forse va rivisto la questione annosa del rapporto tra religioni e modernità, perché da una parte mi pare che appunto l'abstract proposto metteva in rilievo la persistenza delle religioni, ma forse potremmo dire la persistenza del religioso. Qui si può fare già come maestro, diciamo, di queste anche distinzioni lessicali che corrispondono anche a distinzioni di tipo concettuale. Questa persistenza del religioso, delle religioni ai totalitarismi, ma potremmo dire anche la persistenza alla secolarizzazione, è un dato ormai acquisito di fatto. L'adagio antico più modernità meno religione credo sia stato messo ampiamente in discussione, non solamente direi da un risveglio del sacro, ma dal fatto che il religioso, il sacro, qui è chiaro che utilizzo questi termini che avrebbero tutti bisogno di una loro precisazione in maniera un pochino confusa e ad modum sinonimi, ma sinonimi non sono, però credo che la consapevolezza sia quello che in realtà vi sia stata una persistenza del religioso, forse uso questo termine, mi sembra più adatto, anche nel tempo del trionfo della modernità secolare, come un fenomeno forse in alcune fasi carsico, perché noi abbiamo assistito alla crisi, ad esempio, per quanto riguarda il mondo cristiano cattolico occidentale, di alcune forme di partecipazione alla vita religiosa, secondo quegli indicatori tipici della sociologia religiosa, che sono sostanzialmente tridentini. La partecipazione alla messa, i sacramenti, eccetera, ma ad esempio abbiamo assistito ben meno alla crisi di fenomeni di vita religiosa, chiamiamola più mistica, carismatica. I santuari non hanno quasi conosciuto crisi nel periodo della secolarizzazione o forme altre di misticismo. Così come credo che, anche qui mi rivolgo al mio amico Giacomo, per tanto tempo collega autorevole, diciamo, emerito nel senso pieno del termine, quindi nel senso anche della pienezza della sapienza accademica, credo che ormai sia da mettere un po' nel ripostiglio anche un'idea di modernità al singolare. Io sono abbastanza convinto sostenitore della tesi di Eisenstadt delle modernità multiple, che capisco che abbia dei suoi, come tutte le tesi, diciamo, dei suoi elementi di debolezza, però in fondo ragionare sul rapporto tra religione e modernità, religione e modernità, non può non considerare che modernità è un fenomeno storico che non può che essere declinato al plurale. E credo che in questo elemento, in questo aspetto, le religioni abbiano avuto un loro ruolo, una loro influenza, abbiano interagito con i processi. E fondamentalismi sono reazione alla modernità. I fondamentalismi in realtà mi pare che siano, in alcune situazioni, se non in tutti, degli adattamenti della religione alla modernità. Diciamo, una delle tipologie di adattamento alla modernità, una modernità politica. Cito solo, ma non per sfoggiare chissà quale modestissima conoscenza, questo filone di studi storici noto come World History, mi pare che abbia abbastanza ben messo a fuoco come dalla metà del Settecento, almeno fino alla fine dell'Ottocento, ma potremmo pensare a fenomeni simili anche nel Novecento, i mondi religiosi globali siano attraversati da fenomeni di risveglio. Renewal, ma è il risveglio protestante, il risveglio diciamo più noto, ma è il sicchismo all'inizio del Settecento, è il dibattito tra la Scala e l'ebraismo ortodosso nel mondo ebraico, è il wahhabismo nell'Islam di metà Settecento, è il risveglio essicastico del mondo monastico orientale ortodosso che è all'origine di quel fenomeno piuttosto imponente nella Russia ottocentesca legato al recupero del monachesimo, senza il quale non si capiscono molti delle espressioni della cultura russa ottocentesca, da Gogol a Dostoevsky fino anche ai simbolisti di primo Novecento e a Bloch. Una delle tante riforme di cui lei faceva riferimento dell'induismo, la riforma ottocentesca che secondo alcuni ha sostanzialmente costituito l'induismo come una religione unitaria, quasi in risposta all'imperialismo britannico, è anche la strategia di risposta alla sfida del mondo moderno della Chiesa Cattolica, che a mio parere sostanzialmente avviene attorno a due poli: la ricentralizzazione su Roma e l'importanza data alla figura del Papa, che era anche una risposta al nazionalismo, se vogliamo, cattolico romana, e d'altro canto la missionarietà. È nell'Ottocento che, anche sulla scia dell'espansionismo coloniale, che il cattolicesimo diviene una religione globale, fino ad allora era europea e americana sostanzialmente. Ecco, allora, questi processi, lo dico perché in fondo ragionare oggi su questi temi, e ringrazio molto la Fondazione Basso, ci vedo molto anche dell'elaborazione che in questi anni hai portato avanti, Giacomo, in queste tesi, di aver messo a tema questo percorso dei seminari che abbiamo iniziato oggi. Allora, credo che però un ripensamento, un ripercorrere quello che è stato l'itinerario storico, rimettendo in discussione anche in questo caso dei paradigmi consolidati di interpretazione di quell'itinerario storico, sia importante, perché in fondo ci sono dei paradigmi interpretativi che si sono formati sostanzialmente tra inizio Novecento e anni 70, 80 e 900, che in modo inerziale continuano a costruire le rappresentazioni che noi abbiamo, sia dell'itinerario che c'è stato fino adesso, ma che chiaramente influiscono anche sulle nostre analisi del presente. Avrei voluto dire qualcosa, ma questo magari ne parleremo un'altra volta, sulle religioni mondo, sull'universalismo, ma lo affronto questo tema da un altro punto di vista. Mi sembra che nel discorso sulle appartenenze, io non mi soffermo tanto sul dialogo interreligioso, anche perché, o sul dialogo tout court, conviviale o non conviviale che sia, ne avete parlato già in molti, è un aspetto del discorso delle appartenenze, avrei da che dire, ma magari nel dibattito o in altri momenti. Però su questo discorso delle appartenenze credo che non possa essere eluso il problema del rapporto, diciamo, tra religioni e poteri, tra religione e potere, il tema del quarto seminario. Benissimo, che io però declino sul rapporto tra religioni e identità nazionali, usiamo questo termine che è un termine un po' scivoloso, perché mi pare che sia anche una domanda che emerge in maniera molto forte dall'oggi anche globale. Bisognerebbe ragionare a fondo che cosa sia questo nazionalismo di oggi, chiamato sovranismo, ma in fondo c'è una riemersione, per usare lo stesso categoria, di fondamentalismi localisti, no? Che attraversa anche molto le religioni. Pensiamo al fenomeno che riguarda ad esempio, ne volevo parlare un attimo, il mondo slavo orientale, russi, ucraini, la questione religiosa in Ucraina è molto attraversata da questa questione, ma in qualche modo in fondo il partito di Modi, si pronuncia Modi diciamo in India, è espressivo anche di questo tipo di questioni, o si potrebbe parlare analogamente nel mondo musulmano, nel mondo ebraico, diciamo di tendenze in questo senso. Allora, questo mi pare sia un tema piuttosto rilevante. Accennavo alla questione dell'Ucraina, a questo conflitto religioso-ecclesiastico che ha un forte connotato geopolitico. Mi chiedo però se sia anche storicamente realistico, adesso scusate il termine, l'espressione cercare una qualche presunta purezza dei fenomeni religiosi e dei dinamismi che in qualche modo alimentano i fenomeni e le vite delle religioni, che sono fenomeni con una loro valenza evidentemente anche storiche, quindi in questo senso anche molto mista, molto segnata dalle contraddizioni della storia. Allora, in qualche modo è vero che molti fenomeni delle relazioni tra le religioni, soprattutto tra le istituzioni religiose, no? Credo che nella stessa concezione di religione è fortemente presente l'elemento istituzionale, che è diverso quindi dalla categoria di fede o dalla categoria di sacro, nelle relazioni tra le religioni in questo senso, credo che l'elemento geopolitico sia sempre stato un elemento presente, quindi bisogna farci conti, non è che si può dire c'è l'elemento geopolitico e quindi sono relazioni sporche, le relazioni sono sempre sporche in qualche modo, allora il problema è saperle vivere e saper, diciamo, per le religioni, per i mondi religiosi, sapere essere presente in queste relazioni complicate e contraddittorie con il proprio profilo specifico, che chiaramente non è quello dei poteri degli stati, ma che non può fare a meno di considerare che c'è anche questo contesto, sennò sarebbe sinceramente un po' naif e non si misurerebbe con quelle che sono le sfide della storia. Allora, questo problema del rapporto tra religioni e, chiamiamoli, fondamentalisti e localisti rilancia nel discorso delle appartenenze il problema religioni e universalismo, perché anche questo è un problema non risolto delle appartenenze, è risolto a livello, possiamo dire, dei sistemi dottrinali delle religioni, ma non tanto nella prassi della storia delle religioni, ecco, come questo si può vedere nelle dinamiche sia dei mondi cristiani, all'interno della Chiesa Cattolica, all'interno dei mondi ortodossi, ma anche all'interno, credo, dell'ampio universo delle Chiese della Riforma o del neoprotestantesimo, diciamo, novecentesco, altro fenomeno che contraddice totalmente l'idea più modernità meno religione, ecco. Ho ancora un paio di minuti. Tre flash per concludere. Uno è ci siamo già confrontati con questo, concludo, lo dico prima gli altri due. Uno mi sembra felice anche un altro tema che mi pare abbia posto David all'attenzione, che è quello del rapporto con la tradizione. Per mia inclinazione disciplinare sono meno attento a indicare modelli e a cercare quale sia il modello giusto, però con la sensibilità che mi viene dalla storia credo sia importante mettere a fuoco come i differenti mondi religiosi abbiano elaborato diversi rapporti con le loro tradizioni. E qui il lavoro di traduzione, cui Giacomo ci richiama in maniera molto forte, è fondamentale. Io vedo come spesso, lo vedo anche dal punto di vista del mondo che studio di più, che è quello russo, studiato da un occidentale quale sono io, in un rapporto che è quello tra Russia, Europa e Russia Occidente, così cruciale per gli uni e per gli altri, come i cortocircuiti di falsa comprensione reciproca dovuta alla mancanza di sforzo di entrare nella testa del tuo interlocutore e capire che nella testa del tuo interlocutore certe categorie vogliono dire qualcosa di diverso da quello che vogliono dire nella tua testa, e che è un elemento, credo, fondamentale del processo di traduzione, è un nodo culturale che ad esempio nel rapporto tra mondo europeo e mondo russo, che è un rapporto fatto di alterità molto difficile, perché un'alterità molto sottile, è un'alterità di consanguini, quindi è un'alterità che fai fatica a riconoscere e a riconoscerne anche la legittimità, e quindi ecco, questo elemento culturale del confrontarsi con un lessico che formalmente è lo stesso, ma nella sostanza concettuale non corrisponde, credo sia un elemento piuttosto rilevante, e lo è piuttosto rilevante anche nel discorso del rapporto tra i mondi religiosi, chiamiamolo dialogo interreligioso, ma del dialogo tout court. Ad esempio è uno, secondo me, dei punti, dei nodi per cui la categoria di laicità è diventata una categoria assolutamente che si è logorata. Si è logorata perché, qui c'è stata, dobbiamo dirlo, una presunzione nostra, occidentale, di proporre il termine considerando che tutti comprendano che cosa voglia dire. Ma nel mondo russo la laicità, che si fonda sulla distinzione e quindi sulla separazione dei piani, non è concepita, perché è un mondo che non ha conosciuto la distinzione dei piani, del potere politico e del potere religioso, come sua storia culturale di lungo periodo. Quindi noi possiamo anche prenderci in giro reciprocamente, e spesso si è reciprocamente abili in questo, no? Perché usiamo lo stesso termine, ci intendiamo, ma non ci si intende nella sostanza. E forse il problema non è intendersi, il problema è quello di cercare insieme delle risposte. Secondo punto, diciamo, il secondo flash lo unisco insieme in un unico flash, che è quello conclusivo e che parte da un tema che mi ha visto già altre volte dialogare con Giacomo, che trovo molto fecondo, che è questo tema dell'universalismo delle differenze. Parto da un... Allora, c'è stato un libro recente scritto da uno studioso di origine indiana ma americanizzato come molti, che è Krishan Kumar, il quale è un sociologo storico, ha pubblicato questo libro a Princeton, Visions of Empire, in cui sostanzialmente fa un'analisi comparativa degli imperi britannico, francese, ottomano, asburgico e russo 800-900 con qualche. E sostanzialmente la chiave con cui lui interpreta questa vicenda e ne fa una comparazione è quella della capacità degli imperi di governare le differenze. È evidente che nella storia degli imperi gli imperi esaltano le differenze e governano le differenze a loro modo, diciamo. Allora, c'è tutta una storiografia negli ultimi due decenni, tre forse, che ha molto recuperato lo studio degli imperi. Adesso non si tratta di ergere a modello di riferimento gli imperi, ma non c'è dubbio che rispetto a una visione e a una grammatica politica che fa invece dell'omogenizzazione il fondamento, qual è quella dello Stato nazionale e della nazione, gli imperi si misuravano in maniera più duttile con il discorso della differenza. Certo, in modi nella nostra cultura poco accettabili, che ad esempio quello della pluralità giuridica, della non uguaglianza di tutti di fronte alla legge, ma non c'è dubbio però che sono state esperienze storiche che si sono misurate con questa questione. Kumar dice: potrebbero aiutare oggi un mondo come quello attuale, che necessariamente, pur basato sulla grammatica politica dell'omogeneità degli Stati-nazioni, però si trova di fronte a realtà che omogenee più non sono. Ma questo lo lasciamo a Kumar. Quello che volevo dire però, in conclusione, è un riferimento che spesso mi torna alla mente, che è quello a un geniale, molto particolare pensatore russo del Novecento, con un suo itinerario drammatico, che è Pavel Aleksandrovich Flariensky, il quale sostanzialmente dice, nel suo pensiero, che è sempre molto acuto, no? Dice: qual è il vero problema della modernità occidentale? Lo chiamo occidentale. È l'identico. Quello è il punto critico della modernità occidentale. Lui lo fa a partire da un pensiero che per sua costituzione antinomica, e quindi che fa della contraddizione la chiave di volta. Ma non c'è dubbio che abbia colto, secondo me, un punto che è un punto anche che riguarda quello che è il tema di cui noi discutiamo, che è il tema dei mondi religiosi, dell'appartenenza. È chiaro che non tutti, ma la maggioranza di noi presenti qua, siamo persone di cultura occidentale, no? E quindi questa sostanziale spinta del moderno all'omologazione all'identico, no? Come elemento di base ad esempio anche dell'idea di universalità. Penso che in qualche modo vada rimessa in discussione, vada resa più complicata, vada articolata, vada anche resa contraddittoria, perché in fondo credo che il principio di non contraddizione non regge nella storia. La storia è contraddittoria per sua natura, e quindi bisogna misurarsi con la contraddizione. E credo, se ho capito bene quello che è la tua idea, Giacomo, l'universalismo delle differenze va in qualche modo, partendo da altri presupposti, con un altro itinerario, in questo senso, e quindi anche nel senso di saper declinare l'appartenenza con le differenze, che non è un problema semplice, ecco, non è che è un problema di cui io credo di avere la soluzione, non ho l'ambizione di pensare nella prospettiva dei millenni o dei mezzi millenni come David, ma credo che sia un problema nodale. Grazie. Grazie. Credo che abbiamo messo carne sufficiente perché possa anche essere spezzato un boccone o dei brani di questa cosa servita, facendo intervenire qualcuno che vuole, o di quelli che hanno già parlato o di quelli che non hanno parlato, sull'insieme di queste tematiche. Io ti cedo il mio posto, così sei tu che dai l'appuntamento per la prossima volta. No, no. No, un paio d'ore no, neanche un quarto, sì, forse un quarto d'ora. Ma queste non sono conclusioni, perché nello spirito della nostra serie stiamo provando un laboratorio, vedere come funziona un laboratorio. Di laboratori di questo genere ce ne sono tanti, anche più importanti o più grandi di quello che noi riusciamo a mettere insieme, però sicuramente il punto di vista che vogliamo proporre o vogliamo sondare non è semplicemente quello, semplicemente è una brutta parola, quello del dialogo tra credenti e tra credenti e non credenti, ma è il punto di vista che è più vicino poi alla traduzione istituzionale della fondazione, che è poi il problema del rapporto con lo Stato, cioè che cosa c'entra, diciamo, tutto questo con la politica, e c'entra molto, come emerge chiaramente. Ecco, questo punto di vista, questa angolazione, diciamo, malgrado appunto io mi capita di frequentare molti tavoli di discussione interculturale, interreligiosa, forse è meno frequentato, ma invece a me sembra, e anche stasera mi sembra che sia emerso, che questo problema del rapporto con la politica e con la tradizione, senza voler fare quei cortocircuiti e quelle scorciatoie di cui parlava Fausto all'inizio, cioè di arrivare subito alla proposta di legge, non è questo il caso, però la tematizzazione è questa. Ed è difficile per me, che faccio un altro mestiere, perché sono un fisico di formazione e poi nella mia vita ho insegnato logica e filosofia della scienza, quindi forse vedo le cose sicuramente da un altro punto di vista, vedo gli angoli, vedo le frizioni, sicuramente distingo tra identità e contraddizione, e malgrado appunto l'età e anche le rivoluzioni paradigmatiche nell'ambito della scienza mi hanno abituato al realismo, sono empirista peraltro, e all'accettazione degli insegnamenti della storia, mi sembra che stasera sia rimasto fuori un convitato di pietra in una certa misura, con proposizioni di saggio realismo dal punto di vista storico, di saggio realismo sulla complessità e sul carattere secolare dei processi, diciamo. Chi non può essere d'accordo col fatto che appunto sarebbe assolutamente presuntuoso risolvere dei problemi che in realtà si devono incarnare nelle coscienze di miliardi di persone, diciamo, divisi da interessi, da tradizioni, da culture, da credenze, diciamo, spesso in conflitto. E quindi sicuramente realismo, sicuramente senso storico, sicuramente consapevolezza che le tradizioni non si cancellano per volontà, però dicevo un convitato di pietra, perché questa modernità che molti appunto, di cui molti hanno parlato come qualcosa che probabilmente appunto è dietro di noi, è stata qualcosa di molto precario, se ben ci pensiamo. Noi figli dell'illuminismo abbiamo ritenuto che un paio di cento, perlomeno, se non di più, secoli di sterminio religioso, fossero superati con la Costituzione degli Stati Uniti d'America, perché quello, diciamo, però, nella mia forse comprensione banale del processo, diciamo, ma io così concepisco la Costituzione degli Stati Uniti d'America, ma in realtà quel processo poi non era assolutamente consolidato, perché la Dichiarazione dei diritti dell'uomo è del dopoguerra, del 48, la Dichiarazione sulla tolleranza religiosa è dell'81, se non mi sbaglio. Quindi sta modernità sul piano dei diritti universalmente riconosciuti dalle organizzazioni internazionali, perché quello abbiamo, dura 30 anni sulla carta, perché di fatto quel processo non si è mai affermato, cioè il processo dei diritti, parliamo molto di valori, ma c'è già un nucleo di diritti fondamentali su cui probabilmente siamo o dovremmo essere d'accordo, che è esattamente quel nucleo, quel grumo di diritti fondamentali che sta scritto nelle carte e che grosso modo, in linea di principio, tutte le religioni. Ci sono delle dichiarazioni, diciamo, il tentativo più nobile è quello di Kuhn e del 98, mi sembra, della Dichiarazione di Chicago sull'etica universale, 97. Ma anche due settimane fa, andando grazie all'ospitalità dell'amico Claudio Paravati, a questo convegno della European Academy of Religion a Bologna, mi sembra, diciamo, che ci fosse un sentire comune sul fatto che le religioni sono unite, perlomeno sul piano dei principi, dal riconoscimento dei diritti dell'individuo. Quello, diciamo, è già un passaggio. C'è qualcosa di più? C'è qualcosa di più? In questa precarietà, lo ricordo, della modernità, 30 anni sulla carta, 0 anni forse, se non esperienze importantissime, diciamo, nei paesi che hanno fatto la rivoluzione borghese, ma di fatto, diciamo, sempre minacciata. Io ho sentito con molto piacere le parole che sono venute dai nostri amici della comunità induista o da Giorgio Raspa. E però, appunto, ognuno di noi ha un convitato di pietra, perché gli integralisti dello Sri Lanka, dei buddisti dello Sri Lanka, oppure i 110 milioni, leggo su Wikipedia, di iscritti al partito estremista hindu, quello che massacra i musulmani, quelli sono un problema che ognuno dei rappresentanti delle regioni ha in casa sua e che quindi dovrebbe essere preoccupatissimo di affrontare come una manifestazione, diciamo, che contraddice probabilmente l'impostazione generale della regione, ma è un problema concreto di crisi, va bene, sì, di crisi della modernità, da non salutare, io credo, però, come se fosse meno male che è finita, così possiamo ritornare alla tradizione, diciamo. Direi di no, ma anche l'Eredim ebraico, cioè il partito estremista ebraico, che ha importanza nella politica di Israele, è un problema, credo, per le cose che David ci ha detto, così come lo sono gli ortodossi in Ucraina, di cui ci parlava Roccucci, perché lì c'è un'integrazione molesta tra il potere politico totalitario e il potere religioso o le credenze religiose, e lo sono anche i pentecostali, gli evangelici in Sud America e in Africa. Lo sono un problema, per il cristianesimo in questo caso, ma per tutti. Perché c'è una strana fenomeno, diciamo, che è quello macroscopico, cioè che mentre il mondo va dal punto di vista delle comunicazioni, della cultura, del trasferimento delle idee e dell'economia con la globalizzazione verso una dimensione mondiale, non c'è un progetto mondiale di unificazione delle religioni, che a me, come laico, ateo, eccetera, piacerebbe. Si dice che le tradizioni sono forti, c'è stato di quella. Sì, lo capisco, però i processi della storia sembrano andare. E invece la cosa mefitica che si produce è che questo processo di globalizzazione della cultura prima di tutto, parte il liberismo, ma poi certo chiaramente anche dell'economia e dei trasporti, non si accompagna a una consapevolezza filosofica, vogliamo dire, o religiosa, sicché l'universalismo è in crisi. L'universalismo è in crisi. E abbiamo forme migliori, come diceva Churchill, la democrazia è una schifezza, però è la migliore cosa che abbiamo inventato. E non ce l'abbiamo, purtroppo, sicché Amartya Sen, che è stato citato, è un seguace di Rawls, cioè non abbiamo, diciamo, degli strumenti di rapporto tra la politica e le credenze religiose che pretendono, diciamo, di stabilire la verità in una maniera diversa da quel modo convenzionale con cui appunto l'empirismo inglese ha abituato i costituenti, i padri costituenti americani a considerare, diciamo, la rivedibilità delle regole e il massimo di regole che si possono stabilire. Io credo che questo problema oggi non sia stato affrontato nella nostra discussione. È un mio punto di vista, naturalmente come fondazione ci riuniremo per valutare questo e per migliorarlo, perché sicuramente dobbiamo migliorarlo e renderlo. E quindi il problema dell'appartenenza, anche qui, diciamo, quello è cruciale. Nessuno ha affrontato esplicitamente, come se fosse un fatto naturale, l'appartenenza. David in qualche misura lo ha fatto, perché ci ha ricordato la forza, diciamo, culturale, vorrei dire, oltre che appunto genetica, diciamo, dell'ebraismo. Però nell'ontogenesi della figura religiosa, cioè come fai, uno appartiene, il bambino, abbiamo oggi il diritto di pensare che possa essere battezzato a due giorni, a tre mesi dalla nascita, quando si battezzano i bambini? Io ho dei dubbi, come laico, ho dei dubbi che la cultura contemporanea possa accettare questa forma della appartenenza, quindi dell'inserimento. Poi possiamo discutere degli tratti comuni, eccetera, ma ci sono degli. Oppure il problema dell'apostasia. Se nel diritto dei popoli e degli individui è dovunque riconosciuta la possibilità di cambiare fede, di appartenere alla fede o non appartenere, oltre che rischiare la morte, c'è un punto di dottrina, diciamo, per alcune religioni, che alcune religioni, compresa quella cristiana, credo, non so, sono ignorante, quella ebraica c'è pure tutto un problema sul fatto che appunto soltanto i figli della donna, diciamo, questo appunto lo vorrei capire questo fatto, diciamo. Io credo che questo sia un tema che ha a che fare con l'appartenenza, sulla base della quale però poi diventa veramente conviviale il rapporto, se non interveniamo, diciamo, su questi elementi marginali, me ne rendo ben conto, rispetto ai problemi che ci pone Amartya Sen quando ci dice che il contrasto dei musulmani e degli indù non c'è. Ci voleva convincere di questo, ma mi sembra che non abbia fatto una buona diagnosi. Ecco, io credo che lo sforzo che ci piacerebbe, che a me piacerebbe, ma può darsi che io mi sbaglio, debba essere questo. Nel riconoscimento, e voglio concludere ancora con una citazione di Lelio, del fatto che sì, è vero che Habermas c'ha, odia l'illuminismo, probabilmente si è innamorato, diciamo, della post-metafisica, e che quindi tutta questa ricerca questo attribuire, diciamo, su temi sensibili soprattutto alle religioni un ruolo però la crisi dell'Europa è un fatto, diciamo, che quindi questo processo di crisi della modernità di cui facevo riferimento prima, sia anche un figlio, diciamo, di un senso di stare insieme dell'Europa, quindi dello spirito europeo. Ma mi sto distraendo, vorrei concludere col riconoscimento, diciamo, che io personalmente, sarà poco di interesse che questo aspetto autobiografico, ho recepito da poco, io ho 73 anni, ma ho sempre pensato, proprio per la mia formazione, diciamo, come spesso i fisici pensano, al carattere residuale della religione. Mi sono convinto in pochi anni, non perché abbia paura di morire, ma invece dell'importanza, diciamo, nella cultura umana e nei ragionamenti che dobbiamo fare nello stare insieme. E allora mi piace citare questa considerazione del 72 di Lelio Basso. Personalmente credo che il sentimento religioso nasca dalla profondità della nostra coscienza, là dove nasce per molti di noi che siamo atei il bisogno di lottare per la giustizia, per la libertà, per l'eguaglianza degli uomini, di sacrificarci, se occorre, anche per realizzare una società umana che sia degna dell'uomo. Credo, cioè, che pure in forme così profondamente diverse, come una fede in qualcosa di ultraterreno o una ricerca puramente terrena come la nostra, si sprigionino sentimenti in parti analoghi, che nascono dal bisogno di ciascuno di noi di superare il nostro chiuso, gretto egoismo, di superare la nostra finità, per accomunarci, per chi ci crede, alla realtà divina e per chi non ci crede, alla realtà umana nel divenire della storia, nel cammino della storia, un cammino che io credo debba essere un cammino di liberazione dell'uomo. Grazie. Ancora 30 secondi, una parte non è di contenuto proprio organizzativo.